Io lo faccio per volete per votare? Votate Jump premendo Alt F4. Alt F4 contro Alt Crunch. Termina. La tastiera della vita. Va bene. È una... Ok. Buonasera a tutti. Allora. Buonasera. Ecco, Salla che si mette a posto, eccolo qui. Per chi ci ascolta, benvenuti alla quinta puntata di Cross of Destinies, la nostra campagna di D&D. Visto che siamo già con giardino, iniziamo subito con la posta. Allora, Gianzo, vai. Scendi in campo. Dopo essere affondati in un'isola deserta. Ah no, pensavo avessi scritto riassunto. Dopo gli avvenimenti nella miniera di Fandelver ed essersi uniti all'alleanza dei Lord, i nostri protagonisti si sono messi all'inseguimento della misteriosa organizzazione conosciuta come Davo. L'alleanza dei Lord suggerisce loro di seguire una traccia che porta alle remote Purple Cross, una coppia di isole nel mare senza via, dove sembrano essersi rifugiati alcuni membri di questa organizzazione. Pyre, John, Gino, Gallifrey e Barbagianni si dirigono quindi a Waterdeep per trovare un passaggio in nave, ma i loro sforzi vengono contrastati da un nuovo nemico. Gli Zentari sembrano avere un qualche interesse nell'impedire al gruppo di proseguire, ma, aiutati da una vecchia conoscenza di Pyre, il capitano Liv, il nostro gruppo abbandona la città sull'avvento di Tramontana. La prima parte della traversata passa tranquilla, ma gli Zentari non vogliono mollare la spugna e al nono giorno di viaggio la nave viene assalita. C'è un dettaglio molto importante che dimenticate tutto questo. Sì? Sì. Che in tutto questo il protagonista ovviamente è Gino, che parla con i gabbiani e si costruisce un manichino di legno. Correggo subito. Cioè, devi mettere in chiaro questo. Non metto come nota pietaria. Sono io, gli spettatori sono confusi perché questa è una cosa. Nonostante la superiorità numerica del nemico, l'attacco viene respinto e due delle due navi inseguitrici vengono distrutte grazie alle magiche fiamme di Gallifrey. Fuoco! Ormai... Che professore è qui, fulmine del protagonista. Gino. Non nota più facile per i poveri amici. Ormai solo pochi giorni di viaggio li separano dalle Purple Rocks. Quinta sessione, sì. Ora, se non vi ricordate bene, abbiamo letteralmente chiuso la quarta... con la fine del combattimento contro le navi, quindi col fuoco. Ma siamo alla prima... perché tu hai sbroccato di brutto quando hai scoperto che abbiamo one shottato il tipo un pochino. Di solito non mi piace dire la fine del titolo perché sennò spoiler giusto del episodio. Beh, poi dico la morte di Jump. 5 la morte di Jump. 5 non volevo sapere l'arte per ora mette puntata 5 il titolo mi è molto inaspettato. No, perché il titolo ce l'avrei per questo episodio. No, però... quindi la battaglia è finita, avete letteralmente c'è proprio John che estrae la spada dal corpo del capitano dei cattivi che si accascia al suolo perché è trafitto da fulmini di luce, eccetera, eccetera. L'equipaggio, la terza nave, quella che si è salvata dalle palle di fuoco di Jump, si allontana rapidamente dalla vostra e l'equipaggio esulta, tutti vengono addosso a Jump per congratularsi, dicono... Che schifo! Tutti vengono addosso a Jump. Tutti circondano Jump per congratularti e dicono fargli i complimenti per perché sono la sua... ci sarà questo per la sua potenza arcana. Quindi... No, non ti dico no. Quando influenza avessi negativa su di voi. Che bello. Cioè, non ti dicono. Adesso hai capito perché non puoi usare su questa nave. non per distruggere il merito, di nuovo non vorremmo. Come si fa il titano? E niente, il ponte è diciamo occupato dai corpi di alcuni membri della sciurpa, ma molti più corpi dei vostri assalitori. Sono tutti morti assalitori, quindi tutti. Sono morti o scappati con l'ultima nave che... No, dicevo se tra lì c'è rimasto uno con la bandiera bianca. No. Quelli sulla nave sono stati finiti dall'equipaggio. E... E ditemi che volete fare. Andiamo tutti quanti insieme. Immaginiamo. Finisce, vediamo la puntata, finite così. Immagino che sia già stato fatto sui canali. Vabbè, io faccio. No, allora, innanzitutto da sotto coperta torna Barbagianni, che era rimasto impegnato ad aiutare gli altri con i cannoni durante la scorsa puntata. Che si unisce a voi e no, praticamente nessuno ancora. Oh, raga, ho sentito un po' di trambusto. No, no, tu hai partecipato attivamente aiutando. Aspetta, io faccio sparire la tempesta. Il cielo com'è? Il cielo per adesso, una volta tolte le tue nuvole, rimane abbastanza sereno. Okay. È ancora abbastanza sereno. Che ora è? Oh, sarà metà mattinata. Yes. No. E io? Beh, io comincio a cercare i cadaveri per i soldi. Ok. La maggior parte dei morti sembra essere quella cosiddetta feccia di corpo. Vuol dire, non so come abbia influenzato negativamente. Se ti vedo una versione di me. No, io le soldi voglio. Sì. No, vedi che anche gli altri membri dell'equipaggio un po' si mettono a cercare in mezzo ai corpi. Tipo una volta cercato un corpo, in un paio di persone lo prendono e lo scaraventano fuori da un altro. Cazzo, se è vero, ma giusto. Cioè, la maggior parte dei morti sembra quella che può definire la feccia di porto, ovvero uomini disposti a fare qualunque cosa per qualche moneta d'oro. Sembrano essere appunto stati assunti come rinforzi per questo assalto alla vostra nave. E frugando vedete che ci sono almeno una dozzina di uomini morti. E frugando su di loro vedete che alcuni di loro hanno qualche moneta insieme per chi non l'ha già speso, chi non ha già speso la paga per il lavoro. E riuscite in tutta a accumulare 30 monete d'oro. Vediamo questo. Questo è il loot che trovate sui corpi. Se poi lo volete dividere solo tra di voi o anche con gli altri membri dell'equipaggio, questo lo faccio scegliere. A 30 a tutti? Cioè in totale? Non è 30 a testa? No, 30 monete d'oro in tutto sulla dozzina di corpi. Ci giuro che sto togliendo proprio, raccogliendo tutte le borse, le bisacce, le borse di questi tizi, mettendo tutta la roba insieme. Non l'avete danneggiata? La nave è stata parzialmente danneggiata da alcune delle cannonate. Non è in pericolo di affondare, cose del genere, sono più danni superficiali, ma vabbè, sì, avrebbe più. Io ho i soldi al capitano. No, ho finito, fammi finire. Ah, scusi. 30 pezzi d'oro dai tizi morti in giro. Ci sono poi le quattro figure vestite di nero. Notate che anche qui, in questo caso, su di loro, cercando, ritrovate la famosa moneta che vi hanno mostrato i membri dell'Alleanza dei Lord, con il simbolo degli Zentarim su entrambe le facce. Mm-hmm. Ognuno di loro indossa un'armatura in pelle, in buona fattura. Ed è blu. Giusto. Una zona di pelle di abbastanza buona fattura e porta con sé delle... una coppia di spade corte e un pugnale alla cinta, un equipaggiamento standard. Erano diciamo. Speciali però, cioè facevano tipo danno da veleno, non acido? Pensi di... Cioè perché cosa continuano... Pensi di intuire sentivo... perché c'era del veleno sopra, non perché le spade fossero... Ah ok, avevano messo del veleno sopra. Okay. Infatti, oltre alle spade e alle loro armi, nelle borse in tutto trovate 40 monete d'oro, mettendo di nuovo tutti insieme. Del 40 più 30 o 40? 40 più 30, sono 30 dalla dozzina di cadaveri di gente comune, 40 dai 4 cadaveri di questi addestrati. In più nelle loro bisacce trovate alcune ampolle, alcune fiale contenenti dei liquidi strani che misteriosi. Non sembrano essere magiche, però. Cosa? Ah, quando le tocchiamo non sembrano... No, non avvertite l'effetto della magia. Trovate solo delle fiale... Piene di un liquido, sono delle fialette, ci sono principalmente due colori diversi. Una è più un liquido più sul nero, l'altra è tipo un misto di... Un liquido, però ci sembra ci sia anche del granulato dentro. Non so, io e Gianto le analizziamo dopo. Ci vediamo per lui. Bravo. Ok, sì, scriviti che trovate in tutto, saccheggiando i cadaveri, trovate 7. No, sì, 7 di quelle fiale. Sette di quelle fiale nere con dentro il liquido nero e 8 con quelle con dentro il liquido con il granulato. 7 nero e 8 granulato. Ha scritto Gianto. Ultimo, sì, ma non per importanza. Saccheggiate quello che sembrava essere il capo, il leader, il comando di un gruppo. Lui ha un'armatura migliore di quella dei suoi compagni. E nella sua vitraccia trovate circa una ventina di monete d'oro. In più, quello che vedete dentro sono è un set di grimaldelli. Che si romperanno facilmente. Prendiamo da lui così può non usare. Che sembrano avere che al termine di che punteggio dà. Quanti più dà? Non dà più, dicevo. È un set di grimaldelli, sembra abbastanza elaborato, con sembra una pietra preziosa incastonata al termine di ognuno di essi, cioè nella punta di utilizzo, nella punta del manico di ognuno di essi. Pensi che abbia qualche valore questa pietra? Sì. Fammi un tiro, chi vuole può farmi un tiro di intelligenza. No, penso l'intelligenza sia quello che il ladro che usa il pigrionde. No, più 5, non sono dai. Aspetta. No, quelli tiro sono pezzi. Allora, 13. Pensi che possa valere intorno alle 30 monitor. 30 monitor. Ma se... cioè venduti assieme agli attrezzi o staccando le pietrine e vendendole da sole? No, è un set di attrezzi molto elaborato, sembra proprio fatto su misura, è tipo quell'altro che vuole quel pezzettino. Ho una domanda, definisci armatura migliore? Andiamo al punto. È un'armatura in pelle lavorata, è 12. Ah no, io la voglio! Non so come usarla. Ed è la mia misura? Abbiamo fatto dello shop migliore. Senti. Abbiamo fatto lo shop una volta. Esatto. Vabbè, la trombosco, la stringe, tanto di perle, non è che. Cioè, se però, lì posso metterla sotto l'armatura al massimo. Sembra essere della tua misura. La pastrice cava. Allora. E tutto qua fammi capire una cosa fuori dal gioco. Lui non giocava, non ha fatto un cazzo e l'hai fatto lottare. Questa è una borsa con circa 20 monete d'oro. In più anche lui portava però a differenza degli altri lui aveva una singola spada lunga, un coltello infilato in cinta che non usava per combattere e sembra un coltello che usava per combattere, che è particolare. Quindi sì, altri due non sono. Sembra magico. Sono le solite spada lunga. Tiro di arcana. Sono di buona fattura. Buona fattura, ma questo coltello che usava per combattere mi accorge di essere un certo. Tiro di arcana. Faccio tiro di arcana per capire qual è la magia, se posso. Aspetta, prima visivamente. Come fa? Visivamente vedi che è una specie di daga. Non so, è tipo. Quello di Prince of Persia. No, è un. Non sono neanche sicuro che effettivamente sia il termine giusto. Comunque è una lama di circa questa lunghezza, affilata su entrambi i lati. E vedi che il manico è decorato con la forma di un serpente avvolto, con la testa che finisce sopra la lama. Mi piace. Dovrebbe essere per Federico, se lo sai. No, è Federico una larga. Per Federico ci vuole un cecchino. Grazie del calibro 50. Dell'armatura mi devo segnare qualcosa in particolare? Che è 12 più la destrezza. Sì, ma devo segnarmi che ne so. Fai finta tipo che sa di disegnare un po' meglio. No, capito, il corpo del serpente con la testa qui e questa è la lama del portale. Che ne so. Non è magica, è magica. Sì, quando lo prendi in mano senti il potere magico che... Posso provare a farlo dire del cane, almeno chi lo usa se lo fare. Poi... conoscenze magiche, quello che... Quando lo prendi in mano. Sì, puoi fare un tiro del cane. Senti la potenza. Allora... sento la potenza. Che schifo. Ah. Che tiro di mano. Esatto. Che schifo. Se ci stanno ascoltando i bambini, copritevi le orecchie per 10 secondi. Salla, prima abbiamo detto a Federico che per assumere... vabbè, no, ha fatto 18. Siamo in fascia protetta. Per assumere più proteine dovrebbe assumere molto sperma. Esatto. Nella sua dieta. Dovrebbe farci tipo i pancake al posto del bianco dell'uovo. Immagino solo la bontà. Proprio... io non lo immagino. Roba molto di classe. Ok, senti, allora, avverti che è una magia di congiurazione. Quindi che ma siccome abbiamo lo stadio, riesce a capire che la sua funzione c'entra con il veleno, nel senso effetti speciali riguardanti il veleno. Questo mi ricorda proprio un cantrip che stavo spesso. Prova a salutare te, pugnale. Esatto. Poi magari scopri che c'è la rigenerazione. Non credo. Ricordate che potete passare, fare un riposo breve per scoprire dei pigiamenti. Sì. Io faccio un riposo lungo così che mi capisco completamente. No, prendo a fare, a me non mi serve, perché dopo quello si sincronizza anche. Cioè, oltre che capire. Poi anche dallo un altro no, si sincronizza. Non sai se è necessario. Giusto, ma anche se fosse un altro si sincronizza. No, beh, capito, giusto per utilizzare i tempi. No, c'è la propria regola del manuale che potete passare. Allora, tu non hai due mani. Per imparare le... Allora, tu non hai due mani? No. Ok. No? No. Avere due armi ti... toglierebbe... ah, lo scuro. Mi toglierebbe la classe armatura. Il che è sbagliato. allora lo prendo io, che posso andare in qualche parte per diventare un osso. Aspetta, no, oppure aspetta, tu hai lo stocco, lo sai che... Sì, io sono il martello di un pugno e il pugnale. Pugnale! Lasci il martello, pensavistiche come sono. Attacco il pugnale di martello. Il vestino fa riposo con questo qua. Non sai gli effetti magici, se no è un pugnale, è un di 4. Più destrezza o forte perché o forza perché è a finestra. Tu puoi combattere con due armi. Vabbè, io mi sincronizzo. Cioè, io c'ho già un tiramento da una parte e quello da un'altra. Chiaramente dovresti dare massimo una spada corta e. Dovresti usare due armi leggeri, il resto non è considerato leggero. Se vuoi combattere con due armi. Con due mani puoi fare, con due armi puoi usare una spada corta in una e il pugnale nell'altra. Vabbè, a parte le tipo le 12 che avete trovato. Avevamo due spade tirate, spade corte a testa. No, per adesso ultime lui che ti piace lo scivolo. Vabbè, io allora mi faccio il mio riposo lungo e vedo tutte le qualità che ha. Ok, prima di darmi ognuno. Notate che adesso i marinai stanno litigando tra di loro tipo, su chi dovrebbe pulire il ponte a questo punto. Guarda che lui è salito in nave offrendosi volontario. Ma possiamo bruciare tutto, guarda il problema. Jump è salito sulla nave offrendosi volontario per ogni lavoro. È vero. Vedete che allora i cadaveri dopo essere stati spogliati vengono buttati in mare. Però il ponte è coperto di sangue e altri liquidi umani. Io chiedo velocemente a noi, cioè tra noi 5, va bene se ci prendiamo 10 metri a testa e il resto, cioè 40, lo diamo al capitano per riparare la nave? Ci sta. Sì. Che comunque il danno è a casa nostra, ma anche no. Il fatto che sia solo casa nostra, casa vostra, è a causa di quelli che gli hanno sparato. Sì, il danno a causa nostra è la spadata che sì, poi sarebbe distrutta la nave come da quello stai tenendo il punto, cioè il bagno sarebbe stato spacciato. Ok, allora gli diamo comunque un po' di soldi, però ci prendiamo 10 milioni. Ah, sì, minimo, giusto. Certo, allora, vi rendete conto che l'impaggio non avrebbe corso questo rischio se non avessi è quello, è per quello che gli abbiamo dato i soldi. Se allora, non basta. Io voglio ispezionare il cadavere non tanto per il loot, diciamo, più che altro per i visi, magari riconosco quello che potrebbe essere mio fratello. Non ci sono minotauri tra. Ok, allora. Capisce abbastanza al volo. No, che razze sono quelli incappucciati? Ah, vedi che principalmente allora, il capo era un umano, c'era un mezzelfo tra i quattro e di nuovo gli altri tre erano umani, tre, quattro incappucciati. Quelli, gli altri uomini da porto sono, c'era un po' una mischia, c'era tipo uno o due nani in mezzo, c'era principalmente umano, forse c'era un elfo o un mezzelfo che sembra che l'avevo visto. Ma... elfo? Come si chiama? Non so dove sta. Scusa, ti posso chiedere una cosa rapidamente? Il pugnale quando fa un D4 più forza, normalmente? Più forza o destrezza, perché è finesse, puoi scegliere quello là. Come si chiama l'isola? Te lo dico subito. Cioè, quella stiamo ancora lì davanti. Praticamente vi siete. Sarete a qualche miglia di distanza, per questo le navi sono riuscite a raggiungervi e a saltarvi. Lo dico subito. Si chiama Gunderlun. Come di più. Ok, Gunderlun. Non offendiamo la Wizard, magari ci stanno ancora. Okay. Se i risperti mi sta quindi aspetta la capitana Liv è con noi e sta dando ordine alla nave, ha detto ai uomini di trovare qualcuno che pulisca il ponte. Adesso vedete che quindi è capitano, non capitano, sbagliato, ho dato i soldi alla capitana e la donna. Si era intuito, spero, forse. Vabbè, appunto, cioè sì, non mi ricordavo che era lei la capitana di questa nave. No, cioè se volete per ruolare un po' la nave, mi fa piacere. Cioè, sì, so siete stati su una settimana su questa nave praticamente, se volete fare qualcosa di interessante. Io vado a. No, nel senso. Come si dice? Provarci una tipa. Scopri che. Il capitano, ci provo la capitana. Dove si. Su una seconda, dicevo, fammi finire quello che. Parlando con gli uomini, non so se avete parlato con gli uomini, ho scoperto che ormai da anni stanno sotto il comando di questa donna. Sono tutti fidati, diciamo, non è niente a caso. No, sono tutti abbastanza fidati. C'è qualcuno di più nuovo, qualcuno di più vecchio, perché gli equipaggi sono avvezzi a cambiare ciurm, soprattutto per i mercantili. Lei è una capitana leale, sono un'ottima comandante. Beh, hai notato che è una mezzelfa. Hai notato. Tutti, nessuno di loro conosce bene, c'è questa storia tipo che nessuno di loro conosce benissimo, non sa di preciso quale sia il suo nome, tutti la chiamano Liv, sembra che tipo nessuno si sia perso e non si abbia, eccetera eccetera. Dicevi Gaunt? Che io vado sul bordo della nave e poi vomito. Un bel. Ma per il mal di mare o per il sangue? Sì. Ah. No, per il mal di mare. Cioè, poi nella battaglia che c'è stato tanto casino. Poi ero sotto coperta, non vedevo l'orizzonte, sai, per calmarmi un po'. Vedi che ti si avvicina uno dei più anziani di quelli della ciurma. C'è una barba parecchio lunga, sta un po' incupito, è un umano. Non tutti sanno cavalcare questa signora. Comunque, se vuoi un consiglio, il polpo crudo, mangiato fresco al mattino, aiuta molto a buttare giù la. Se vuoi un consiglio. No, non hai capito. Sì, no, vedi che praticamente si toglie dalla tasca un. Che rimane il polpo, già mentre non è proprio. Un po' si muove ancora. Pensi, aveva un pezzo, cioè. Voi mi sono divise, ti va un po'. Beh, ora che sto vomitando mi sembra il caldo. No, non è che. Sì, ma io è ventoso e evita anche il vento. Ah, capito. E tipo, cerca di. Dai, non ce l'ha. Scegli tu. Allora, per levarmelo di torno, prendo il polpo con cos'è che c'ho? Vabbè, il fioretto mi sembra. Ma c'è un coltello, certo. No, ognuno di voi immagino abbia tipo un coltello dove Mi fa un pezzo, sì. Lo mangio. Però mangi veramente o fai finta di prima? No, tipo, fai tipo. Buono, bellissimo. No. E poi vomito, così non lo mangio. Capito? Cioè, riverso pronto, cioè, non si è allenato. E io faccio, no, vedi, non, mi sa che più tardi funzionerà, adesso no. No, vedi, no, io non sono un kangaroo. No, il punto è che sei già stato. Ma cosa si vuoi fare? Non lo so. No, sapeva Federico. Cioè, questo è lo che si è orgoglioso, poi siete cresciuti. Ma cosa mi dovete dire su Gava? Cosa? C'è qualcosa che mi dovete dire su Gava? Tiro salvezza su costituzione. Ah, è sempre un 20 naturale. Cioè, non lo senti effettivamente tornare. Ma io volevo vomitarlo perché così non lo mangiavo. È come se l'avessi vomitato, capito? Ma volevi far finta di mangiarlo e poi sputarlo, tipo far finta di vomitarlo. Cioè, per sputarlo. Non è che poi non hai il comando completo sul tuo riflesso. Vabbè, faccio tipo finta di vomitare, però per sputarlo. Ma so. Ok, fai finta. Esatto. Allora fai un tiro di deception per vedere se lo convinci a. Per girare. Sì. Per girare. 13. Comunque con me non funziona. Secondo me ci devi abituare un pochino. Ok. Ti lascio in pace. Io vedo pure il ponte, tipo creo. Vedi tipo che. Gli uomini stanno tipo facendo una. Stanno discutendo di fare una prova tra di loro per vedere chi era che pulisce il ponte. Li senti discutere tipo. Gli ascolti sembrano discutere tipo del vino del mozzo, senti qualcosa. Io mi avvicino e faccio, mi interessa. Di cosa stai parlando? Mi avvicino. Mi avvicino anche io. Una domanda, com'è che si chiama? Sto facendo il martello alle spalle, così arrivo un po' per e gli ascolto. E quindi. Scusate, come si chiama la nave? L'avvento di Tramontana. Vento di Tramontana? Sì. Ok, grazie. Quindi, no, dicevamo chi voleva pulire il ponte, ci staresti tu a una prova? Sì, quasi, cioè, cosa dobbiamo fare? Ah, niente, un giro di bevute, il vino del mozzo. Il vino del mozzo? Ma vuoi investire o non sia un vino? Tu? Praticamente... dalla mia esperienza marinaria. Non mi piace questa cosa. Ok. Allora io faccio... Sì, pensavo che sia bisogno di fare questa sfida per determinare chi pulire il ponte. Sì, ma cioè, di cosa si tratta? Il vino del mozzo. Il vino del mozzo. Non può essere descritto. Va bene. Che mi sto inviando in gioco? Vabbè, dai. No, chi vuole partecipare di voi? Posso tirare per percepire intenzioni? Puoi fare un tiro di intuizione, certo. Ti butteranno alla grande. Ho fatto 19. Eppure... Intuisci che non è effettivamente un vino, molto probabilmente. notando anche che gli altri marinai fanno una risatina nel vedere che non sai cos'è il vino del mozzo. Io vabbè, su proviamoci, mi butto. Puoi anche provare a vincere già. No, io sono stato a dormire, mi dispiace. Da voi si dorme qua. Dai, proviamoci. Va bene, la cosa è questa. Chi ne beve di più, si risparmia di pulire il ponte. Ci sta. Quindi chi ne beve di meno pulisce il ponte? Qui non devi prendere tanti, aspetta soltanto quello che ne beve di meno e poi dice, quando ne bevo 2 o 3 bottiglie, te ne bevi 4 e si può risolvere il problema, capito? Non è che devi bere. Proviamo, vai. Ok, vedi che portano un barile davanti a voi e mettono 2 boccali. Sì. E davanti a te si pone un membro della ciurma che si chiama Uri. Ok. Uri. È un tizio abbastanza grosso, è un sempre umano, ma bello viassato. E dopo poco arrivano con 2 barili, sotto 2 di quei barilotti piccolini che seguono di queste dimensioni, tipo, sotto la spalla. E a turno li aprono e senti già l'odore dei cetriolini sott'olio che esce dai barili e versano un bicchiere di olio di conserva dei cetriolini. Cristo! E lui mi fa, alla salute! Alla voce mi fai il tiro con la mezza su costituzione. Speranza. Merda. Vabbè, dai. Ah, tiro salvezza? Su costituzione. 18. E di che tu Uri, guardate negli occhi. E senti che resta giù. Almeno il primo resta giù. Ho come l'impressione verranno da me più tardi. Ma niente, ho fatto il primo, verso il secondo bicchiere. Anche voi un po' di polpo. Aspetta, domanda. Ma questo Yuri, Uri. Scusa, Uri. È tipo il rappresentante dei marinai? O... Sì, è tipo il rappresentante dei marinai. Ognuno ha scelto tipo la squadra. Tipo... Ah, quindi spesso due. Ah, quindi siamo due, cioè, due e loro. Cioè, sì. tra me e lui chi vince, non, la squadra non pulisce. Sarebbe. L'idea era quella, non so, se non, sono, non so se sono stato chiaro. No, avevo capito che tutti dovevamo bere e quello che beveva di meno. Ah, no, ok. Però no, effettivamente, ti hai proposto tu per la sfida e... Non sono spiegato per benissimo, si era detto... No, vabbè, però penso, effettivamente questo secondo... Sì, vabbè. Finisce la cosa per dire allo stesso modo. Ho questa impressione. Adesso il secondo bicchiere, quindi, e continua la sfida? O ti ritiri? Uri sembra determinato a continuare. Io un attimo devo un attimo pensare una cosa. a vedere se ti piace morire così o ne ho passato a battaglia. Beh, tu sai che se perdi dovrai aiutarlo a pulire il ponte, però la cosa si fa abbastanza. Allora, enhanced abilities. Cioè, in realtà io, cioè, parlando introspettivamente, io pensavo, non mi interessa a chi dice, tanto puliremo tutti il ponte. Costringerò tutti a pulire il ponte, quindi boh, me la rido, però poi... In tutto questo io sto pregando dall'altra parte della nave. Okay. Ah, tipo, visto che lui sta facendo nel frattempo, io provo a fare un tiro per capire le fiale, visto che mi sto riposando. Ma stai pensando di smaitare la nave? Sì. Tanto gli unici danni alla nave li ho fatti. Ah, ti dico ufficialmente cosa faccio: apro una boccetta e con un dito molto molto delicatamente ci poggio appena in polpastrella per vedere l'effetto che hai fa. La proficiency con qualcosa di utile? Tipo, c'è una cosa che si chiama kit dell'avvelenatore. C'hai la proficienza con quello? No. Allora è un tiro di intelligenza pura. Io ho tre lati e cerco, quando mando giù, di creare un po' d'acqua per diluire il tutto. E olio non... Cioè, no, diluire. Stomare. Diluire il fattore vomitante, diciamo. Cioè... Non aiuta troppo la cosa. Comunque è il puro olio di... Secondo tiro della Costituzione. Vendi naturale, però. Fatto 24. No, 20, 25. Sia tu che Uri, tracannate il secondo bicchiere come... Posso fare bene. C'ho avuto un culo da no. Mi piaci. Andiamo. Terzo bicchiere. 19. Porca troia. E vedi che Uri non è riuscito a stargli dietro stavolta. Ce l'ho fatta! No, è bravo! Ora pulisci il silenzio! No, vedi, tutti i miei amici... No, Uri, andiamo! Cos'è? Sei al terzo bicchiere! No. E vedi che... Un altro! Ora sono toccato. Tutti ti battono sulle spalle e poi si preparano circa 5-6 di loro, tra cui Uri, perché... Ha fallito miseramente. No, creo tipo un pannello d'acqua e cerco di spostarlo per pulire un po', cioè per il danno. C'era tutto lo stava che vedessi tipo... Loro apprezzano. Ma non so, c'è tipo qualche danno più grande, che ne so, magari rialzare qualcosa, spostare qualcosa, magari con qualche lavoro pesante, dai, posso fare io. Altre due cose e poi... Ok, faccio sul loro lì, hai fatto 20 naturale con il veleno. Con quale delle due fiamme hai provato per prima? Ah, è un tiro sempre. Per fiamma, mi spiace. Hai ragione. Quelle nere, che mi piace tanto. Che l'hai proprio assaggiato. No, non cominciare. Ho soltanto leggermente aperto, non dico hanno sanno, ma soltanto toccato un po' la pastella per vedere che mi sento corrodere, oppure non lo so, sento con la sortiga, capito? Sì, senti che ti... sul dito, un po' sul dito. Dato a guardare, inizia prima di tutto, si intorpidisce un po' il dito, quindi inizia proprio a farti un po' male, lo strofini subito via, prendi un punto d'anno, E no, sai che sembra essere un veleno abbastanza potente. Però non mangio. Non è un veleno... Non magico, esistono anche. Ah, okay, ma è un veleno non magico. Se vuoi l'altra, proprio vegetale animale. Nei tuoi un po' di scusate questa chimica per quanto sia sviluppata nell'atmosfera, riesce a eliminare il tipo di veleno, si chiama l'ombra dell'assassino, lo chiamano in giro, sembra così. Se te lo vuoi scrivere, quello magari dallo a Salla e a ombra dell'assassino, hai detto, vero? Sì, funziona così. Dici 13. Vabbè, tu già c'ha l'effetto. DC 13. Ok. Fa 4 di 6. Ah, quindi deve, scusa, deve superare. Quante fiale sono? 7, quello. Sì. Dammi. Però sai anche che è un veleno molto molto volatile. Pensi che dopo un colpo probabilmente viene sprecato dopo un colpo. Una fiale intera. Infatti, se ricordi, loro colpivano per la prima volta e facevano un culo di danno, quelli che facevano un Dammi tipo 4 Federico. La sfida con Jacopo cos'era? Salla. La sfida con Jacopo? Bere praticamente si chiamava vino del mozzo. Il vino del mozzo. E dovevano fare a gara chi beveva più sostanzialmente olio, quello dove sono immessi i citronini. Ah, che schifo, ok, ho capito. Sala, ti scrivi qualche tu hai partecipato. Sala, ti scrivi quattro fiale di e per quello ne di ombra dell'assassino? Sì. Che me ne faccio? Te le metti sulla spada e aggiungi il tuo danno classico se fanno un tiro sulla costituzione di 13, 4 di 6. Grazie, ma sì, rifiuterò, è un modo da deboli uccidere col veleno. Ma dai, è lui. Sono tutte e sette a lui, allora. Giusto. Sì, perché tanto usare con le frecce non è uno solo. Cioè, riuscirà a bagnare almeno tre frecce. Con una fiala. Fiala fai tre frecce, sì. Se, l'altra, se vuoi, la trovo io. Se... Come la frecco? Però devi dare l'articolazione bonus per tindere la freccia e poi sparare. Allora, io allora devo fare tre cose, allora. Primo, controllo la fiala, quella granulosa, con i grani... E chi vuole controllare, tiro tre frecce ogni fiala? Sì. Sì. Però devi usare l'azione bonus per intingerlo, perché è molto volatile. Ma che si chiama vino del... Mozzo. Ah, ok. Che avevo finito. Con 17 riesci a capire che questo non è un veleno, però non sei sicuro bene di cosa faccia. Dai, c'è tipo. Mi si mette vicino a me, faccio. No, guarda, possiamo farli. Cioè, ci sono una volta. Almeno che tu non avessi Poisoner Skitter. Se c'è il Poisoner Skitter, ci aggiungi non anche. Skitter Borista. E ho. No, quanti. Non capisci più una cosa da alchimista, probabilmente. Se c'è un qualcosa da alchimista, no? Alchimia, allora no, solo intelligenza. Okay. Vabbè, facciamo fare. Cioè, fermo così. Stucco. 18. 18 con intelligenza. No, cioè, zero con intelligenza. Non vorrei mai, perdono. Anche qua. Aiuta. Aspetta, quando l'hai fatto? 17. Beh, però ci aiutiamo. Cioè insieme. Ok, no, va bene. Non lavorando sulla fiala, non riuscite bene a capire. Ma io faccio la stessa cosa, lo apre leggermente per un pingo e sento gli effetti. Cioè, che non è che lo guardo e faccio. Cos'è? Cioè, è un po' che senza, cioè lo apro, non dico che lo provo leggermente ad annusarlo senza. Ok, quando noti due cose. Quando apri la fiala, inizia a sollevarsi un fumo dal primo strato del liquido. Però di nuovo, quando lo metti sul dito, di nuovo, quello che è sul dito sembra spargersi in un fumo abbastanza denso, però non ti fa male, non senti dolore, non senti nulla. Oddio, tipo una cosa così. Così vedendo non riuscite a inguinarlo come veleno o cose del genere, guardando solo la sostanza. Però avete tipo un flashback. Vi ricordate? Okay. Vi ricordate della battaglia nella caverna quando alla fine loro hanno gettato qualcosa a terra e sembra essersi volatilizzato, creato una cortina di fuoco. Quello sì, ce le priamo una testa almeno. Quando sono 8? 8. Una testa, io direi che per te e per Federico un embrio. Una fumogena per te, per me, per Federico, ne ho 8, 5, una testa e due per me. Ok, cosa devo segnare? Una fetta di fumo. È una bomba. Ah, marijuana. Esatto. Praticamente la noce è qualcosa da tirare. La durata? La durata è, stavo dicendo, tirata a terra in un raggio di. Di 10 piedi, 10 feet, quindi in un bianco di 20. Si crea una nube di fumo e le creature dentro la nube di fumo sono considerate cieche perché non vedono. Meno che non c'è una visione termica. Come? Altre due cose che devo fare è vado sul ponte e vedo che il mio manichino per allenamento è stato distrutto. Abbastanza. Allora, tipo lo prendo, faccio il servizio con scopo, tipo funerale, lo porto sul bordo della nave, lo lascio cadere in acqua, lo guardo, poi dopo faccio così e comincio a vedi buttare che... anche io vicino a lui. Vedi che... tutto l'olio dei cosi esce di terra, cioè non è cambiato nulla. Vedi che Gar, un altro uno dei più equipaggi più fuori di testa, si mette a suonare una corda musa quando... Poi morto. E l'ultima cosa, dopo che finisco di vomitare, anch'io comincio a aiutare a riparare la nave, però... Di nuovo, non è che potete vomitare scelta così... No, però c'è cioè, sento che okay, mi sarei sul... No, mi butto in acqua e comincio a aiutare a riparare la nave dall'acqua, visto che posso muovermi abbastanza velocemente in acqua e diventare acqua e riparare meglio la nave da fuori. Seppure illusano. La nave continua a muovere, però non so se sì, no, però cioè, comunque... cercare, tipo, ti lanciano una fune. Per un attimo l'equipaggio si spaventa. Oddio, si è buttato! No, ma io ce la faccio abbastanza diventando acqua. Posso dire. Sì, insomma, quanto è la tua velocità in acqua? Ah, perché la nave, perché la nave va in fretta, A meno che voi non vogliate fermarvi per qualche giorno, ma il viaggio sarebbe soltanto. No, la mia velocità in acqua è uguale. E allora dopo un po' rimani indietro davanti. Beh, è stato bello. Vabbè, dai, ogni tanto mi aggrappo. Ti rendi conto, hai tipo la visione mentale di te che ti butti in acqua e ti provi a entrare poi... Vabbè, ogni tanto mi aggrappo e torno avanti, cioè non è che sto sempre in acqua. Ok, per la mano imparare. Per la che è? Qualcun altro... Io dormo, in modo più profondo possibile. Pugnale possiamo... No, sì, per sincronizzare nel caso. Ok. Pugnale, bravo, con analizzando il pugnale durante il tuo ritorno lungo, sì. Perché ormai avete più o meno così è stata passata la giornata, tu aiutando a riparare con la sfida del mozzo, con chi si cerca di capire cosa sono le pozioni, eccetera, eccetera. Chi vomita, chi prega. È un pugnale più uno, innanzitutto. Ok, quindi wow. Il D4 più uno. Sì, anche il tiro più uno. Bello, si chiama Daga dell'Aspide. Facciamo una pausa ora? Ma sì, ci sta. Che poi. Sei dopo c'è il ritmo. Perché mentre combattiamo. Finiamo. Daga dell'Aspide. Aspide, ok. Aspide. Sai questo: puoi versare del veleno sulla lama. Ok. E quando lo fai, gli occhi del serpente si. Tipo hanno una scintilla luminosa per dirti che è il segnale che il veleno è entrato in sincronia con l'arma. E quando il veleno è in sincronia con l'arma, fa così. Il veleno non smette mai di essere efficace quando su quest'arma, cioè il veleno è sempre efficace, okay. Non si consuma mai. Se con veleno e quello rimane lì per sempre. La cosa cambia nel senso, quando versi un nuovo veleno, il vecchio veleno viene sostituito da quello nuovo e diventa praticamente permanente su quell'arma. Il veleno aumenta di 1 il suo DC di salvezza. Cioè, tipo, facendo l'esempio di 13, diventa di 14. Esatto, DC 14. Okay, 14. E aumenta e aggiungi un dado di danno se è presente. Quindi quello lì sarebbero 4 di 6, su questa dai diventa 5 di 6. Merda. Sto male. Riesci a intuire anche che su questa daga c'è quel veleno, perché lo sta usando il... DC è più... volevo qui. Sto male, ma dai, comunque un D4 più 1 che la destra. Dai, facciamo di 6. più il D4 della destrezza. Ci faccio 4 politiche. Cioè, se ci metti sopra il veleno diventa più forte. No, cioè, no, il veleno, cioè, il veleno invece di evaporare rimane per sempre. Una volta che figata! Infatti, sto facendo tutto. Di questo ho fatto cazzo più. No, è così, vabbè, però hai anche messo i nemici più forti. Sì, sto cercando di... Devo imparare ancora un attimo a bilanciare i combattimenti della vita. Non è proprio... Vabbè, ho buttato tutti tranne quello che... Vabbè. Infatti, se avessi colpito quel pezzo di armatura 20, gli avrebbe fatto abbastanza male. 5 di 6. Non capisco perché tutti hanno lottato tranne me. È vero che c'è, quindi, che ombra che dava faceva. Chissà perché era nella C13 più e faceva quant'è? 4 di 6. Okay. Quindi in questo caso diventerà, no? Quindi. Ci manca solo che ti fa trovare uno scudo tipo più 6, così hai tipo 84 di... Non ho capito, cioè... come no? Io ho meno soldi, meno equipaggiamento di tutti e comunque sono penalizzato. Ma è piano, cioè, è l'armatura del delirio. Sì, ma no, l'ho pagata con i pochi soldi che ho racimolato. Comunque adesso, più nessun tipo di copilato, sono di la sua distanza. Meno 20. Aspetta, ma io ho fatto il panaggio, ho preparato la musica stasera, non ho messo la musica, sono un po' mio. Sto cercando. C'è un pezzo di mia parte. Da che parte sei la mia? Che mi dà qui è buono. C'è carta? Fa più... Guarda, purtroppo la rabbia da più vivi di quanto pensassi. È più buono. Che schifo. Mettiamo un attimo la musica calma di sottofondo. Ma volete fare una pausa? Pausetta per la torta, signori. Vai. Torna a fight. Allora, per questo particolare veleno è una volta fight, cioè no, è una volta per riposo breve. No, così però è barato. Vabbè. Ah, boh, ci sta. Inizi con quello. Ti ricordo, ti ricordo che tu, se hai preso la vita precedente, eri Warlock. Avete tutti gli incantesimi, ho cambiato un pochino il regolamento del coltello. Sì, è cambiato un po' il regolamento del coltello perché si sono accorti che se lo impugno io è troppo barato. No, ci sto. E installa per favore, c'è un drago, lo uccidi, certo. No, perché sono adesso il veleno che ci metti sopra il coltello, perché in alcuni veleni anche ogni volta anche tenere una volta. Perché se fosse sintonizzato ora abbiamo scoperto che il pugnale che abbiamo trovato dagli avversari fa molto male, ma soprattutto nelle mani di Salla. Sì, e Salla ha dovuto lui stesso chiedere di nerfarlo, quindi perché per non sembrare troppo, cioè dopo capito una passeggiata non si diverte da letto. Cioè comunque solo io mi sa che ho scelto un po' delle scelte del cazzo, perché se, lo stregone penso sia uno dei personaggi più forti ma solo dopo a livelli molto più alti. Beh no, secondo me è già dal 6. No, è veramente una roba di parabola, cioè ora fa un po' cagato, dopo quando saremo tutti a livelli alti io sarò quello che farà ma ti basta il livello 6 probabilmente. Tutti quelli che non hanno infatti Warlock, cioè il Warlock è buono perché è come lo stregone ma a riposo breve riprende gli incantesimi e quello è il difetto. Io livello semplicemente che tu stai prendi Edo, cosa fa il 20? Edo picchia, tu cosa fai il 20? Non so, controllo il tempo e casto wish e tipo faccio le meteore quando e così basta, perché se lo fa due volte ha finito i punti esperienza. Però cazzo posso fare wish, ti ricordi wish che bello Salla? Sì, ma costa un lira di Dio di... Vabbè, l'ultimo, cioè, lo slot di millesimo ottavo livello. Ottavo livello. No, costa lira di Dio punti esperienza, mi sa. Che punti esperienza? Che vuol dire punti esperienza? Mica stiamo a giocare in un gioco o un altro gioco. No. Mica uso punti esperienza per castare gli incantesimi. Sono gli slot. Sì. Ma Wish era... Wish l'avevi usato tu quando ci avevi fatto dare le carte di Luca. A suo tempo, quando sì, io ho desiderato, quello è diverso. Che tu in base a quella, però tu avevi sbagliato. Ah, no, non c'è più, l'hanno tolta sta cosa. Sì, ma a un livello un po' prefido, cioè bello. Hanno aggiunto una roba per cui se lo usi una volta e c'è una probabilità per cui non lo puoi più usare. Che cosa? Wish? Madonna di cazzo. Io per quello piacerebbe continuare sempre una campagna, anche se manderei su questo personaggio, sto per il gusto di vedere. Cazzo, siamo gli incantesimi di millesimo livello. Oh, capito, abilità particolare. Dai su, siamo in nave. Che facciamo? Avete ripreso lo stream? Avete già... Sì. Ah, quando è partito? Se nessuno mi ha detto niente. Ah, no, quando io stavo spiegando cosa era successo. Per quale motivo? Che stavo detto mi hanno dovuto fare perché ho chiesto. Ah, più. Ok, va bene. Anche le onde in sottofondo mi piacciono. Esatto. Oh, che cazzo è successo? Perché ti stai bloccando? Madonna, se fa schifo. Mi fai troppo schifo. Parlo di Mozilla Firefox, fa schifo. È schifo sotto tablet. Sui tablet fanno schifo. Sì, sì. E prendiamo quello, dice. Quali tablet? Quelli fallati. In particolare. Abbiamo due assenti, però. Vabbè. Non lo so. Vabbè, tutti. Abbiamo un assente, vabbè, pace, un assente spostato. Vabbè, quindi dormiamo, cioè la giornata è finita. Sì, ma dormiamo così lungo. Ricopriamo tutte le cose. Sto male, infatti. Sì. Che giorni di viaggio ce ne sono ancora per arrivare al Parco Ross. Recupero i lacchi, recupero i tostanti. Bravo i lacchi, bravo. Io comunque sto veramente un coglione, io merito di essere tipo bannato a volte dal master. È vero. Perché, e me la riconosco, sai quante volte, io ho più 7 per colpire, sai quante volte ho usato il più 7 per colpire? Ma che ne fai? Perché, cioè, quando faccio, cioè, colpire... C'è magia. Cioè, perché c'ho il carisma, c'ho la tua. Dimentichi di aggiungere più 7 per colpire. Ma se sei notato, io non ho mai fatto tipo 27 come loro. Non ho problemi. Sì, ma sì, non ho perso punti ferita. Ma va. Infatti, a volte merito di essere parlato, cioè, ve lo riconosco. Ma non penso niente. Che tristezza. Che tristezza. Passano alcuni giorni? No. Sì. Niente. Il Nemesis. Oppure no? Arriva il Nemesis. No. Scusate. Diceva. Non sai cos'è il Nemesis? Che, no. Che triste. Devi fare una nave in... In meme. Va bene. È il Nemesis. Torre. Nei giorni seguenti, notate che il capitano e la ciurma si ritrovano spesso a guardare l'orizzonte. Che romantico. E ora? E anche voi? E accorgete che più vi avvicinate alle Battle Rocks, più il cielo sopra di voi si fa scuro. Magari viola? No. Ah, ok. Scuro da tempesta. Deviando leggermente la rotta, riuscite a evitare l'ombra della tempesta per i primi giorni, ma capite che presto non vi sarà modo per... non vi sarà più modo di farlo. È la tempesta. Faccio... Non è la mia. Ah, ok. Non mi sono scordato di spegnere. Ho brutti, faccio brutti incubi. Ma sarebbe bello che quando ci sono gli incubi ci fai tirare, se, tipo siamo distratti, che c'è gli incantesimi, fanno un portello. Tipo fiammate, forse se vuoi, guarda. Se vuoi, lo facciamo. Ma quando sei particolarmente teso, che proprio non ti sai controllare. È nella dodicesima notte di viaggio che siete costretti a entrare nella tempesta e al vostro risveglio il ponte è battuto dalla pioggia. Eh? Wow. La pioggia. Un'interferenza nelle cuffie. Più andate avanti più il cielo sembra essere deciso a fermarlo. Alla sera del tredicesimo giorno la maggior parte delle vele è stata ammainata e le onde, alte quanto due uomini, si schiantano sulle fiancate della nave. La ciurma è sconfortata e la tempesta rallenta il viaggio. Sentite parlare tra i marinai che ci vorranno almeno altri due giorni per arrivare. Liv, tuttavia, non ha la minima intenzione di tornare indietro. Sì. Ma è solo alla fine del quindicesimo giorno che si scatena la vera tempesta. Oh, in qualche modo. Quindi, che volete fare? Sopravvivere, una domanda, è questo il problemino, no? Sì? È questo? Posso vedere? Dopo faccio vedere. Ditemi se volete fare qualcosa in questi giorni di pioggia e di tuoni. Altrimenti cambia poco, però. Altrimenti proseguo con lo stop. Poi cerco di, cioè, con la mia esperienza marinare riesco di rassicurare un po' i marinai. Cioè, nel senso, altra domanda, cioè, nella mia esperienza, questa è una tempesta più forte del normale oppure cioè, ne ho visti di così? Per ora no, però è una tempesta abbastanza forte, ma non una di quelle più forti che tu hai visto. Più che altro la zona e il luogo ti fa tornare parecchio alla mente gli avvenimenti di un anno prima, quando la tua nave è stata... I tuoi? Sì, prima cerco, diciamo che prima cerco di... Di autorassicurarti? No, prima cerco di rassicurare gli altri, poi in realtà mi isolo nella stiva e così. Io per pura cosa stupida, perché so che è una stupidaggine, però nella tempesta mi sembra che sia del tutto naturale o sia scaturita... Ma di arcana. Di arcana o natura? Natura che cazzo è? No. Cosa? È un druide, non è natura. No, che differenza tra l'altro? Intelligenza inutile. Ma infatti pure io ho arcana zero. Infatti è una cosa assurda. Com'è possibile che tu abbia la versione 5 inutile dell'intelligenza? L'intelligenza? Che ci devo fare? Io devo avere carisma, devo saper parlare. Guarda quando parlo bene, guarda. Ah. Aspetta, ho sbagliato. Preserto. No, non di 12. Di 20. 18. No, la tempesta non ti sembra magica o che sia, no, sembra, ti rendi conto che avete raggiunto uno del, seguendo anche dai marinai, ti rendi conto che il mare senza vie è decisamente una delle zone più selvagge della sua costa ed è una dei climi più invernali della zona, diciamo. Ci sono varie tempeste per circa 8 mesi all'anno, quindi... È tipo siamo quindi... delle Bermude, sì. No, non esageriamo, è semplicemente una zona molto... in cui il tempo non è mai troppo bello. È Londra. Certo. Il mare è un po' più a nord di Londra, diciamo. Vabbè. Io dovrò provare... Aspetta. Tu hai detto in cabina, sai? Nella stiva. Vabbè. Ah, io allora lui ho detto, dai, cantiamo, conosci qualche canzone, tipo cerco di darlo su... Ma invece una domanda che faccio al capitano, come provviste come si è messo? No, di provviste ne abbiamo ancora per qualche giorno, non dovremmo avere problemi ancora per un po'. Sapevamo che il viaggio sarebbe stato lungo, quindi ci siamo riforniti. C'è qualche marinaio che sta male? Che tipo... Sono abituato, non è una tempesta così... No, non sta male, cioè sta male... Ora per i cepiolini, dici. No, aspetta, io vado dal vecchietto a chiedere se ha un po' di polpo. Ah, hai capito finalmente che funziona, avete sì, lavorato? Sì. Sempre, questa è la vera cura. Vai, dammi. Allora io prendo quel coltellino e mangio un po' e devo tirare per vedere se mi sento meglio. Sì, corpo di cura. Un tiro di costituzione con vantaggio, però. Che il sapore ti serve. Uno e uno. 18. Mandi giù il polpo. Ed effettivamente un po' lo stomaco si calma. Oh, grazie. I vecchi sanno sempre tutto, Quando vuoi. Grazie. Ok, è ormai... sta male per nessuno. Fisicamente no. Ma per l'ansia. Cioè, per l'anno sono marinai esperti, non sono i primi... No, vabbè, dico in generale, qualsiasi... No, non siamo proprio 1200 come diciamo, epoca marinaresca. Qua un po' le malattie della navigazione si sanno, si conoscono un po'. Si sa che si devono mangiare gli agrumi. Ma io cerco di andare sul morale degli altri cantando. Ma io vi direi una cosa, visto che tanto mi sembra una buona cosa, io aspetto con ansia i duelli. Cioè, quindi dico al marinaio, cioè no, non sei il marinaio, se nemmeno il capitano, dico, ma questa tempesta non è tranquilla. A tutta B, cioè si può dire a Biborg. Tutta B, a Biborg cos'è? Cos'è Biborg? A Biborg. Cos'è Biborg? Io ringrazio Foltus per questa grande occasione di mostrare la forza di ogni uomo. Vabbè, per la via così si dice, che cazzo? Ah, per la via così si dice, però. Per la via così. Così. Va bene. Posso pirate grandi, lo usano spesso. I telespettatori potrebbero andare in questo momento andare a vedere. Tu quando ringrazi Fortus senti un tuono che scende dal cielo, non sai se è lui che approva o no, però non lo fa. È già il 16° giorno di navigazione in Nonfatto. E fosse fumativo. Quando il capitano vi chiede di vedervi tutti nella sua cabina. Io detto io? Capitano. No, un giorno. 16° giorno di navigazione. Si rendi conto? Ieri. Sembrava ieri. La durata. La durata prevista del viaggio era 14 giorni, circa 2 settimane. Anzi, no, direi che non mi. Vabbè, non era no, era... No, era... no, era 14 giorni, ma era un'altra cosa. Che... Mi chiede di vedervi nella sua cammina. Date o fate assistenza? No, no, no, c'ho paura. Rivoluzione. Siete di male. Probabilmente che non l'ho mangiato io quella mela. Non ho mangiato io quel polpo. La ciuma è ormai al limite. Per mano? Stanchezza. Sì. Ma ormai non dovrebbe mancare molto. Secondo i miei calcoli, la tempesta ci ha portato leggermente fuori rotta. Ma a breve dovremmo essere in grado di avvistare la costa. Però dovete ancora spiegarmi come volete procedere. Oddio, dove dobbiamo andare? Non credo che stiamo andando. Io lo sapevo. Che mi sta venendo in viaggio. Sapevo che il mio storyteller era... Non è la destinazione del viaggio che conta. Ok. Queste sono le Purple Rocks. Ok. Dove stiamo andando? Dove state andando? Mi fido, Marco. lo so, usa l'immaginazione, c'è anche su Dropbox se ti interessa. Sì, mi fido lo stesso. Ci sono due isole principali, Trisk e Uterot. E Felice. Ci sono due... E Utero. Utero. No, Trisk e Felice. Due principali città, perché Felice. Sono molto deserte le isole. E Felice. Wolf of Tugger, qua non ho idea di come tradurlo, sinceramente non ho idea di cosa voglia dire. No. Sia leggero. Questo è l'unico. E Ruiz Ovascar. Le Ruiz Ovascar sono rovine di un'antica città elfica che dicono sia sprofondata. Si chiama Ascar, ma aspetta. Atlantide. Che dicono sia sprofondata a nord di te. Lì mi vuole chiedervi dove volete traccare. Che è come così piccolo che è. Allora, Edoardo, secondo te dove è meglio? Wolf of Tugger o tu sei esperto di città marinare? L'Alleanza dei Nord gli ha detto che le tracce conducevano più sull'isola di Trist. Andiamo lì. Questo due Trist. Adesso stiamo ignorando il suo naufragio, così andiamo qui solamente per investigare. Sì, cioè tu non mi hai spiegato bene come ti sei voluto salvare dal naufragio. No, è facile perché. Vabbè, dai, andiamo via. Uff. Ti è stato preso da una nave, tanto tu non hai mai messo piedi sull'isola. No. Ti hai salvato una nave di costa. Probabilmente una delle navi che dall'isola vanno a commerciare il pesce. Ok, con una nave più sale. Allora, uff. Sono andate lì, si verso. Era giusto vedere un po' com'era la zona. Ok. Per avere più boh, dai, ci fidiamo dei pizzo. Oppure. Ma no, dobbiamo andare dove c'è più casino. Io gli chiedo, c'è un problema perché non riusciamo. No, dovremmo solo fare un po' più d'attenzione per la navigazione, dovremmo circunnavigare la Utah e sono fatto dread, come si dice, sono fatto dread, abbiamo dread loss. Giustamente, giustamente. Siamo fatto 30. E già. Non ho mai voluto chiedere, ma... No, non siamo stati di rilascio. No, non sono gay. Non ho mai voluto chiederlo, ma... Il motivo del vostro viaggio c'è qualcosa... Te lo giuro, non lo so. È ok. Lui è che cioè, lui vede le porte aperte dentro, capito? Cioè lui non è che sia qui per un motivo. Voglia d'avventura! È questo! Io voglio saltare di livello, non si possa fare, io la faccio! Tipo l'unica che ha fatto i marinari, oh, voi ci sono un sacco di exp! No, vabbè, gli spieghiamo che siamo qui. No, non l'avevo detto. No, vogliamo, se, almeno voi avete detto che volevate andare all'isola lei senza fare troppe domande, siccome no, sì, cerco di... si è dimostrata particolarmente disponibile nei confronti di cuore, vabbè, lei le dico sì, beh, in realtà noi siamo venuti qui, vabbè, fai tu da quanto non sappi, non è che lei non abbia avuto una particolare predilezione nei tuoi confronti, vabbè, però no, nel senso, cioè, più altro perché la conosco già, sì, lei era amica, cioè lei conosceva il tuo capitano, la vostra ciurma. E... Sì, anche perché già l'ho incontrata prima, cioè nel senso a porta, abbiamo anche combattuto insieme. Fammi un tiro di insight. Di. Com'è che la chiamata? Conoscenza. No, in. Cioè in italiano. Intuizione, no? Intuizione, mi sembra. Sì, è quella con lui. Ok. È intuizione. Ma pure io o. 10. No, lui. Sì, cioè, pensi che il suo aiuto sia derivante dal fatto che era amica del vostro capitano, però. Conosceva la ciurma e che sia anche lei sospetta di come le del, di come sia cosa sia accaduto alla vostra nave. Ok. Comunque, visto per i vostri discorsi vengono interrotti da un suono inatteso. Un lungo acuto fischio sovrasta il rumore della tempesta. Ah, sono quella tempesta. Senti la tempesta in sottofondo, giusto? Buono. Questo è segnato. L'Iv si precipita fuori dalla cabina e il vento e l'acqua salmastra vi investono lei e voi aprendo la porta. Sul ponte c'è agitazione, gli uomini si tengono alle paratie e si sporgono. No, sì. Paratie non è il termine giusto. Vabbè, si tengono ai parapetti, forse era parapetti la parola. Perché le paratie mi sa che è questo. Si tengono i parapetti della nave e si sporgono oltre il bordo. Un fulmine squarcia il cielo e per un attimo, dove prima si sporgeva solo oscurità, riuscite a vedere due enormi sacchi. Dall'equipaggio si leva un grido. Terra! Scusa. Tutti si agitano e iniziano a esaltare. Molto bene, topi di sentina, issate il fiocco e le mezzane, voglio cavalcare questa tempesta. Questo è Lib che dall'alto del ponte di comando grida ordini alla ciurma, che ora si muove con una nuova energia e le vele vengono spiegate e la nave acquista rapidamente velocità. Riuscite a sentire l'eccitazione del equipaggio che sovrasta i tuoni e la pioggia. E in questo momento l'equipaggio corre per la nave tirando pugni e sanno bene, sentite i gesti di esclamazioni dei membri. Ah, il primo giro lo offro io, no? Ti metto una battuta stupidissima. Dai, ragazzi. Vabbè, ma è davvero tu però che tipo sulla strada tipo grave, no? Io chiedo lì un canocchiale. Uno dei marinai di fianco te lo passa e ovviamente adesso il cielo è praticamente completamente scuro, solo quando c'è un lampo un flash di luce abbaglia abbastanza da poter intravedere le sagome delle due isole all'orizzonte. Allora diciamo che mi metto in posizione di cannocchiale più o meno dove ho visto prima che c'era la terra e cerco di intravedere qualcosa col prossimo pugno. Il posto migliore veramente se non vuoi salire sull'albero maestro, no. Dove ci sono quei poveretti che hanno avvistato per primi, hanno dato il segnale, e su a fianco a Lynn sul ponte di comando. A questo punto lei si rivolge a te. Fire, Fire, so che non è il momento questo, ma devi farmi una promessa. Prometti che scoprirai cosa è successo. Scoprirai cosa è successo a Valin. Valin era il tuo capitano. E... certo, sì. Fammi un altro tiro di insight. 13. Potresti capire che il motivo del suo volerti aiutare, diciamo, potesse dipendere da ciò che lei provava per Valin. Cominciamo a ipotizzarmi. Fire, ti vedo solo come un amico. Fire, me lo prometti? Te lo prometto, farò quello che posso. Sentiamo allora. Ma prima cerchiamo di arrivare a Divi subito. Ottima idea, ottima idea. E non appena dici questo, muore. Il fulmine che prima aveva colpito il cannocchiale è fatta la fulmine esplode. E non appena dici questo, aspetta, siamo nella terra dei lampi. Bravo, prego, bravo. Abbastanza problemi. Perché è un drago e siamo su una cazzo di nave? Guardando se devo livello. Vieni. Tu, anzi, tutti voi, mi dovete dire innanzitutto più o meno dove vi trovate sulla nave. E dove stiamo? Oltre il segnino già pronto, mi posso emozionare anche emozionare. No, è circa. Datemelo con un'approssimazione. Tu se stavi vicino al capitano. Qua se tu stavi vicino al capitano, poi dovevi essere più meno. Sì, vabbè, io si fanno a fianco lì. Io pure. Se vuoi segnarlo con qualcosa, se tu... sono una matita. Sono una matita. Perché li abbiamo solo per iniziare, purtroppo in questa cosa. Andiamo a togliere i piacingoli di gatto. E anche c'è altro sporchino. Fire è più o meno qua, vicino al capitano. Liv è al timone. Tu dove vuoi starci? Se dici la ciurba è un po'... Cioè, no, qui vicino alle scale. Ok. Tu? Ah, io sto qua. Ma che lato era, Alberto? Qui? Sì, ovviamente vi state dirigendo verso... No, pensavo tipo qui. Cioè, ah, no, no, no, state proprio puntando verso la terra, perché vicino alla terra tipicamente la tempesta è leggermente... Vabbè, scusami, quindi se io sto qua allora, al massimo, cioè, se lo stanno parlando, che dimmi, togli solo per dargli i pari, insomma. Cioè, vicino alla terra le onde sono più basse. Vale. Quindi... John, tu avevi una preferenza sulla nave di stare tipo a poppa o prua o... A poppa, lo conosco. Dov'è la cabina del capitano? A prua. Vado a dire a poppa, scusa. Allora sono a poppa. Stai vicino a me? Sarei dentro la cabina del capitano? Ero dentro la cabina del capitano, quindi immagino. Ok. Cioè, vabbè, perché lei apre... Quindi... Ah, e quando finisci di dire questa cosa, forse finalmente adesso concludere, tu e tutti, le persone sulla nave venite scagliate in avanti. Sentite un forte crack, un impatto che rallenta la nave e voi venite scagliati in avanti. È il crack! Ecco. Vedete che l'equipaggio è spaesato, non capisce cosa possa essere stato. Liv si guarda attorno cercando di capire. Io per caso un flashback. Sì, la tua cosa. Fammi un tiro di intelligenza. No, mi strezza, guarda in chat e cade un flashback. Oh, 13. Si sveglia nel flashback. Ti ricorda un po'. Cioè. Ti viene in mente la notte del tuo naufragio, però no, ha senso perché pure non credo di ricordare molto di quella notte. Di nuovo un fulmine illumina il cielo e vedete questi pilastri tutti intorno alla vostra nave. Aspetta. Ok. Non, fatemi un tiro a salvezza sulla destrezza. Molto. Siamo il D20, giusto? Niente di strano. 15. Sulla destrezza? Sulla destrezza. 16. 20 naturale. Quindi aggiungo la destrezza? Tiro salvezza sulla destrezza. Siamo alla... Stiamo giocando da più di 2 anni ormai, non hai ancora imparato le regole base. Diciamo, non piangere. Salvo 14. 18. Ok. O 40. 12. 15. Ok. Non mi so, ma dici. Via. Quindi tutti quelli che hanno fatto meno di 15. Sto male. Tutti quelli che hanno fatto meno di 15 prendono 11 danni. Quelli che hanno fatto più di 15 ne prendono 5. Questo perché due giganteschi tentacoli si schiantano sulla nave, lanciando detriti e casse, resti, pezzi di legno, corde, fune in giro per la nave. E ora è una grigliata! Grigliata di pesce. Pesce pittoresche! Uno dei due. Era 11 danni, detto. 11 perché ha fatto meno di 15. Uno dei due attraversa la nave qui. L'altro attraversa la nave. Quindi no, uno dove sono io proprio. Praticamente tu sei stato. Mi ricorda davvero tanto. 20 sei riuscito. Mi ricorda davvero tanto la fiera dei cavalli. Con tu 20 sei riuscito comunque a salvare. E a questo punto sentite gridare dai vari membri della turma. Kraken! Veramente. Ma che ti sto male? Liberate il Kraken! Che figata! Ci chiamo il Kraken! No, io posso usare... Ti puoi nascondere se vuoi. Forgi, no? No, scusa, Elish 3 Biuk. Questo non è un attacco, questo è stato un tiro salvezza quando no, attaccano te. No, è in più una gittata. Cara. Ok, mi tirate iniziativa, per favore. 14, 13. 13. No. Ma no, sono pensate per colpire, chi destra mi la morta. 20. Ma che dice? Inizia, no, c'è un 3. Scusate. Imbecille! Venici! Salta 5. Salta 5. Ci ho pensato per colpire, ma niente di più. Ma io comunque c'è anche. Ma quando tocca a me mi butto in mare. Dopodiché mi tirate tutti un D20 e mi dite il risultato. Così a cazzo. Puro? Sì. 4. Okay. Salva sta qua! 14, amico. Non so, tipo, c'ho veramente paura di usare queste cose. 3 kg? Io? Sì. Toschi, 19? Sì. Salva 2. 20. Naturale, le passate. Penso. No. Tu vai a 4, perché ho scritto John quando c'è. John è 2. Ok, ci sono. La vedo molto male. Metti anzi quando mi fa tirare così senza motivo. La sentite. La detto comunque, cioè, no, no. Gallifrey. Eccola là. È il tuo turno. Vedi che due gigantesche masse di carne praticamente si sono stanno trattenendo la nave, come sembrerebbe. C'è stato un forte scossone e la nave, per quanto non sia facile orientarsi in mezzo alla tempesta, ma sembra che la nave, se non si sia del tutto fermata, almeno rallentato. Vedi che il vento fa sbattere le vele da una parte all'altra. Lì. Ok. Mi sembra abbastanza scontato ciò che dovrò fare. Sentiamo? No, lo farò, vorrei tanto fare Firebolt, ma quando pare mi hanno consigliato che già la nave si è rimasta bene a merda. Io dopo una tempesta sembra che è una palla di fuoco. Sì, vabbè, in realtà una palla di fuoco è quella difficile. Un poco magico, non verrebbe spinta dalla pioggia. Vabbè, però... Sì, cioè nel senso devi anche contare che vicino alle... quelli che sono sopravvissuti all'impatto, perché non tutti sono sopravvissuti all'impatto. Negli intorni ci sono i marinai, ci sono gli altri membri della ciurma. Perché il pene di molti vale più del pene di pochi. No, vabbè, allora che cazzo devo fare? Lancio io da qui. Ah, ma io sto qua, quindi lo vedo qui. È stato un po' sbalordato in giro, ma sì, più o meno sei in quella zona. Sì. Vabbè, a questo punto lancio Firebolt, che è un cantrip, tranquillo. Faccio la mia fiamma tranquilla. Giusto, guarda, Perry, ma fa? Lo tocco col pugnale sul tavolo. Giusto per... No, perché mi ha messo l'unico coso non bersagliabile di tutti. Tentacolo 2, tentacolo 1, così riconosciamo. Vabbè, allora io attacco il tentacolo... Uno? Sì, ma come non bersagliabile? Non puoi usare il Marksman, però l'Antesmart. Ok, sui tentacoli, però, non su di lui. Tira per colpire. Cioè, non posso colpire lui a meno che non mi butti in mezzo. Scusa, ma... Vabbè, cosa faccio? Cioè, nel senso, io posso provare a colpirlo. Sì. Però i tentacoli, non lui. Sì, cioè, sul ponte ci sono i tentacoli, puoi colpire... Ma lui è... Cioè, i tentacoli sono lui, nel senso... Faccio 15 di danno. Ma immagino che la vaccata sia che se faccio tot danni si stacca, ma lui non è che subisca, chissà. Vabbè, quanto vale tentacoli? Vabbè, per far scena spammerò tutto su un tentacolo. Bravo. Raffaele, ho fatto 15 ma non cadere, non è male. Può fare male. 12. Faccio la mia arma. Ah, grazie. Aumento di uno. Aspetta, la giallo lo puoi fare anche gli altri? No, sono anche senza armatura. Senza armatura io ho 12. No, mi giallo puoi fare. Solo se... Senti. Vede che svariati membri della ciurma, quelli che non si dispiace, quelli che ancora sono ancora in piedi, si scontrano contro uno dei due tentacoli, contro quello più vicino al loro capitano, e con le spalle cercano tipo di tagliare la carne che trova, a colpire in qualche modo, e effettivamente vedete che stanno poi la destrezza 13 destrezza più una normale uguale cioè 17 ok scusate adesso Barba Gianni vabbè dai vado di fioretto e sul tentacolo 2 sì, scendi le scale e ti avvicini e ti avventi sul tentacolo che ti blocca la strada, non puoi andare oltre il tentacolo perché è troppo grande per essere. Se vuoi puoi provare a scalcarlo, ma... Scusa, quello vicino a no, certo, ma nel senso non puoi raggiungere altre parti della macchina che tentacolo... Ma nel nostro team chi c'aveva le cazzo di scarpe volanti? Io posso saltare. Chi c'ha le scarpe saltanti? Saltanti, quelle che esistono volanti, ma non ci vedo. 17. Mi ricorda... Per colpire? Io ci ho giocato, arrivando a finire per l'addore lì, sono uscito, ho collocato le per strada perché c'erano i cambi di città, l'ho usato e quindi voilà, mi ho volato per 2 minuti di fila, poi dopo che sono morto. No, cioè sicuramente no, perché il dettaglio è indietreggio del mio movimento. Sì, è la sarebbe proprio ma non ti possono fare attacchi di opportunità. Ah no, è vero, non sono tentato indietro, perché ho già fatto il mio movimento. Puoi tornare un po' indietro, non è da parlare di storia. E tanto non fanno attacchi di rutina sul team. Fire! Allora, diciamo che io sono abbastanza scosso dalla visione. E... Cioè, diciamo, appena ho tentato una volta lo scossone, eccetera. Però appena mi rendo conto di quello che è successo, mi butto un attimo a terra e rimango un po' pietrificato. Quindi diciamo che perde il turno così. Ok, boh, che tieni un po' di ispirazione. Grazie. Gino! Cosa? Allora. So cos'è un Kraken? Sì. La stai vedendo? No, nel senso. Può fare il tiro di arcana o intelligenza? Semplice. 16. Hai sentito parlare mostri marini? Sai che sono tipo piovre giganti, nel senso sono creature gigantesche con dei tentacoli che sono, però sai anche che sono se ne parla come di leggende, nessuno a memoria d'uomo sembra ricordare un crack. Non so niente riguardo tipo a se sono creature tipo tolleranti al fuoco, controllanti, cioè controllate da qualcuno piuttosto che selvagge, piuttosto che esatto, non era di a fuoco. No, purtroppo sai solo di queste leggende che assalta, si sente dire che assaltano le navi, ma non hai sentito, non ti sei mai interessato molto all'argomento. Vabbè, ok, e allora provo a fare... giusto per darvi un'idea, cioè i tentacoli, l'idea che sarebbero, diciamo, sono anche quasi... in grandezza sono alti quanto un uomo e mezzo, diciamo. Ok. Sono delle salsiccione di carne con un diametro di io un stando uomo e mezzo. Molto attento, faccio con lightning dalle tempeste, cioè visto sì, che già ci stanno, certo. Le manico un pochino le corfa di ritirare, non so se deve tirare però non so se potrebbe, cioè, dovrebbe essere o delle destrezza, mi sa, vedere tiro salvezza sulla destrezza, la DC è 14. Aspetta, Steam, vediamo. Io non credo. Che cazzo sto vedendo? Ok, lo fallisce. Ok, si piglia 16 danni e... Su quale dei due tentacoli? Quello davanti a me. E io divento... no. No, non divento un animale ancora. C'ho in mano il bastone, faccio Shidag. C'ho in mano il bastone. Di nuovo, alcuni membri della ciurma cercano di... Posso scatenare, alcuni di loro si avventano sull'altro tentacolo e di nuovo, per quanto siano miseri in fronte alla grandezza di questo limbo di carne, in qualche modo riescono a punzecchiarlo e vedete che la creatura si muove, si meno un po', come se fosse da... scosse di dolore. Ah! Cos'è? Cos'è? È interessante. John, tocca a lei. Dunque, a parte i 15 danni che non mi sono piaciuti molto, c'è un tentacolo vicino a me? Tu praticamente eri nella cabina del capitano, che è sotto il ponte di comando, diciamo. No, sono uscito dalla cabina quando lei ha detto «Ehi, uscite dalla cabina!» Sì, hai detto che eri rimasto lì nella zona della cabina, no? Sì, perché... però, cioè, nel senso, sì, fuori, non sei bloccato dentro, tranquillo, esatto. Solo che praticamente una volta uscito dalla cabina ti ritrovi di fronte letteralmente il tentacolo della creatura. E niente, gli faccio l'Hunter's Mark, così, per ridere. E poi lo attacco. Come? Col pugnale. Ovviamente. Quindi umano. Sono 22. Hai preso, sì. È una gigantesca salsiccia di carne di fronte a te. Questa è un fumble su cui userò un bel lucky. 24. Hai preso anche con quello. Possiamo fare un attacco alla volta, che così non ci confondiamo. No, perché voglio fare la somma. Fammi tiri salvezza della costruzione. Un tiro salvezza sulla costituzione, sì. E superato di gran lunga. Grande. Allora intanto lo smite di livello 2. Sì. Anche lo smite non sa che usare una volta a turno, guarda. No, una volta sì, attacco. No, è una volta attacco, ma lo uso una volta sola. Ah, va bene. Però con ordine. 6, 10. 2000 se faccio Ah, sono 18 danni che di mezza, quindi 9. 9 danni, ok? 9 più 10, 19. E sono quelli della forza più il coso. Quindi 19. Ah, ok, li vuoi separati perché ha riduzione del danno. Che maiale. No, tu hai un'arma magica, quindi va bene. Vai pure. Ah, 19. 21. No, sono separati quelli da veleno, era quello che... Ah, ok. 21, 24. Poi c'è un D6 che fa 5, quindi 29. Pian piano, hai fatto... Ok, questi erano in aggiunta a quelli da veleno che mi hai detto prima, ok? Sì. Sì, sì, sì. Continua pure. 29 sono 36, 41, 49. Ok. Non faccio nient'altro. È bellissimo. Boh! È tipo la pistoletta quella di Men in Black. Se non mi sono mosso, l'azione di movimento è tipo rimetter via il pugnale. Rimetter? E via il pugnale. Ah, ok. Dottor Egil. Tic! Boh! Ok, sul pugnale di fronte a voi si apre un gigantesco squarcio. sì, un gigantesco squarcio. Scusatemi, non mi ricordo. Non posso stare le mie spalle perché sono talmente potente che distruggere ogni cosa. Si apre un gigantesco squarcio. Il tentacolo si contrae per quanto ormai sia quasi completamente mozzato. Ah, fa male? Babbuino. L'ho attaccato. Sono arrivati. Ci stavamo là. Cioè, qui ci mancano. No, adesso sto andando, si prende esperienza. No, io volevo il drago, ma il crank può essere l'ultimo sostituto. Oddio. L'unica cosa che bisogna rivisitare è la bonus action qua. Veramente, siamo al di fuori della città. Cioè, non mi fa castare una spell, se poi uso... Cioè, non posso castare due spell. Non ci rendiamo conto. Questo è blasfemo. Questo è blasfemo. Ok. Barba Gianni e Gallifrey mi fanno un tiro salvezza sulla resistenza. Non mi piace questa cosa. Non ce l'ho fatta. 12. Sto male. Vieni andare. Barba Gianni. Vedete che altri tentacoli spuntano dal mare e si schiantano ripetutamente in varie zone della nave. Uno, purtroppo, si schianta proprio vicino a te. Mi ho tirato male, in faccia se non l'avessi fatto. E prendi 8 danni. Un altro, purtroppo, si batte contro, si schianta contro Barbagianni. Al cane d'oggi. Ok, quindi 8 danni anche a te. Perché era 16? Era 16. Aspetta. E l'hai fallito, quindi prendi solo un. Scusa una curiosità, se avessi stato shield... Un tiro salvezza? Sì, sì, per quello chiedo, che ne so, se... Se non sai le regole, chiedi. Fallisce. Di nuovo, è un tiro salvezza, non è un attacco. Quindi vedere... No, perché sono gli attacchi, cioè è attacco quando uno ti lancia un tentacolo in faccia. Di nuovo, Barba Gianni? Per quello chiedevo se shield potesse essere rotto. Un tentacolo si schianta nella nave vicino a te. Mm. Però un secondo tentacolo cerca di affrontarti. Con un 21 ti prendo? Sarà più veloce di sì. Ma 15 di armatura? Sì. Va bene, neanche se avessi avuto shield avrebbe aiutato. Praticamente un secondo tentacolo tu ti tu cerchi di schivare con un tentacolo, un po' i detriti e così, e altre cose ti colpiscono leggermente, ma la maggior parte del danno la inventata. Ma un secondo tentacolo si schianta vicino a te e poi fa tipo spazzata e cerca di prendi 9 danni. Okay. E sei considerato morto. praticamente il tentacolo ti ha afferrato e sei incapacitato. Sei considerato restrained nelle spire del tentacolo. Va bene. Dopodiché, signori, se mi fate tutto un tiro di percezione, per favore. Perception, cos'è? No, giusto per scrivere, ma dai! D2. Restrained è velocità 0. Grande salda. Gli attacchi contro l'interno, vantaggio. Ok. E poi... Ok. Hai svantaggio, indica salvezza su destrezza. Se non c'era la morte. Comunque salva, come ho fatto 20, è corretto, a parte che negli attacchi il resto è schifo. Sì, esatto, se no al cazzo. E quindi che ha fatto? Che, scusate, io 4. Fatto, tu? Percezione. 5. Okay. Tu e tu, nonostante la tempesta, le urla degli uomini, i tuoni, eccetera, eccetera, aspetta, i tuoni, eccetera, eccetera, non mi piace troppo, sentite un rumore molto molto sinistro, sentite come se qualcosa si spezzasse. Cosa sarà mai? Abbandonare la nave! Le ossa abbandonare la nave! Non sai farlo quando è finito! Raga, non posso nuotare con sta armatura, siete chiari? E nemmeno io. Con la spada che va dentro la bocca del Kraken e tipo c'è sparo. No, io comincio a urlare di abbandonare la nave subito. Gali, io e te. Scelta difficile. Lascio che la nave affondi o affondo io. Tanto ormai siamo fottuti, spara tutto. Della serie. No, non so, c'è più che altro uno dei tuoi compagni, per il momento è stato sollevato in aria dal tentacolo. Sì, io vorrei colpire quello. In aria, non sono a terra. Okay, il tentacolo praticamente ti ha preso e magari mi aveva preso lì, però rimasto. Sembrerebbe, se hai fatto 5 in percezione, che il tentacolo voglia tornare sott'acqua per il momento. Okay. Allora, non tornerà sott'acqua. Quindi, allora, io sono qui, quindi sono sopra, suppongo, c'è la nave, c'è il rialzo. Qua sì, esatto, una sezione rialzata. Così. Suppongo che quello ha preso il tentacolo, dico che stia altezza più o meno un poco più alto di me. Lui. Sì, sarà tipo 10 piedi sopra la tua testa. Se io adesso, il tentacolo c'ha una certa lunghezza, qui c'è lui, il tentacolo prolunga. Se adesso colpisco, non lui, ma il tentacolo, nella sua direzione, c'è la probabilità che il tentacolo lasci? Però se cade muore lo stesso, cazzo. C'è la possibilità che subiti abbastanza danni, la creatura lascia la presa. Ok. Se prova, sempre che devi colpirlo. Se prova abbastanza dolore, cioè, comunque un tentacolo è più difficile da colpire perché questo si muove, non sta per vogliate, però... Vuol dire, forse è un tentacolo gigantesco. Vuol dire, se fai 40 danni... lo so. lo so, ma il problema è che i miei danni sono radiali, quindi fare tanto danno a Gardava. Non so, a meno che non riesca ad avere una distanza di 20. Cosa sono i tuoi danni, scusa? C'ho 20 di intorno, capito? 20 piedi intorno. Quindi colpire Gava, cioè fare gli stessi danni a Gava. Vabbè, dai, al massimo è il buffo impagliato. Se non muore, cioè, è una nave. In caso è come la nave, c'è tanto muore lo stesso. Ma cosa? Cazzo, mi sono anche dimenticato. Molti palli di tentacoli si scandono sulla nave. Alcuni di quelli del tentacoli vengono scaraventati fuori dalla nave. La famiglia Wheeler distrutta. Io ci provo, che tanto non basta mai provare. Certo. Uso Magic Missile. Quale livello? 3. Ok, fallo, sono 5 danni. Esatto. Sono 5 danni. Sì. Fidati, sono 5 danni. 5 danni. 5 danni più 5. Quindi... 4. Sono 5 di 4 più 5. Ho fatto 19. Ho fatto 19. Ho scelto le 19. La scelta peggiore della mia vita. Ma non è vero. Non so niente, ma... vedi di nuovo come è troppo. Fatto... arrivo, devo fare un attimo il conto. Grado 19. Però ho capito, match misto, cioè dei missili. Se si può, una cosa stupida, secondo le regole ufficiali dovrei dirlo prima di lanciare questo tipo di incantesimo. Posso fare tipo radiali? Cioè nel senso, ta-ta-ta-ta-ta così, tanto per radiali. Ah sì, certo. Vedete che in mezzo alla tempesta 5 fasci di luce luminosa, di luce luminosa che viaggia questa interazione. Luce luminosa partono da Gallifrey e si schiantano su di dare un tu senti il tentacolo che si agita, però senti anche che, come dire, mi stritola perché prova dolore. Sì, il dolore, quella è figa. La creatura agitante sembra leggermente mollare la presa, però non ti lascia ancora andare. Tocca proprio a me. Può fare un tiro per cercare di liberarsi? Può fare, allora, puoi attaccare la creatura. Per cercare di attaccare la creatura, però il vantaggio è non attaccarla. Oppure puoi fare una prova di forza atletica o destrezza o acrobazia destrezza, atletica, forza, acrobazia destrezza contrapposta alla creatura per cercare di uscire via dal tentacolo. Come forza non fare. No, la creatura rola comunque forza. Ma cioè vengono sommati, non conviene fare vengono sommati forza e destrezza. No, puoi scegliere atletica o sì, ma se io faccio destrezza lui magari fa forza e mi batte. La creatura fa sempre forza, quello che non resistere fa sempre forza. Ah, ok. E non è che posso costringerti a stare fermo con la mia destrezza. Ok, provo destrezza. Devo provare destrezza per liberarti, va bene. Tiro salvezza. Yep. No, non è un tiro salvezza, è un tiro di acrobazia. Ah, vabbè, è uguale. Vabbè, però non è un tiro salvezza. Non per tutti è uguale. 24. In qualche modo, con il dolore che ha provato la creatura, che ha rallentato un po' la presa, e con i tuoi riflessi da ladro, riesci a sguisciare via dalla presa. Uso tutto il mio nome. Fai un tiro di acrobazia. 12. Ok, prendi. Purtroppo la creatura ti aveva sollevato un po'. Prendi 6 danni per la caduta sul ponte. Però riesci a più o meno a cadere abbastanza bene. Non perdere sul ponte, tanto adesso affonda tutto. Puoi usare se hai un'azione bonus o del movimento che vuoi fare qualcosa. Se li puoi fare. Posso usare la cura? La pozione. Pozione di cura, sì. Potete usare una pozione di cura come azione bonus. Così non sono. Ma ora puoi usare un'altra spell, anche se tu usi due stregoneria, se fai una spell in ecco. Sì, turno, l'ho appena letto da quando sei per essere sicuro. Poi no, comunque... se fai una spell nel tuo turno, una spell di livello 1 superiore, puoi fare un'altra magia solo di livello cantrip. Fortunatamente non sono più in coma e riprendo 5 punti di vita. È un D4 più. No, 2 di 4 più 2. 2 di 4 più 2. Fare 19? Devo fare 4. Senti, con la tua destrezza stappi il tappo che si perde nel mare e trangugi una pozione. Il calore ti si diffonde nel tuo corpo e è un sollievo abbastanza. Comunque prima mi sentivo un po' mancare prima. Ma scusami, tu hai provato a liberarti o a colpirlo? È sceso a zero. Sei pazzo. Non è sceso a zero. Sì. No, se sei sceso a te hai perso... No, è dentro il turno che l'ho presa la pozione. Finché non finisce il turno i miei danni non sono calcolati. Eh no, allora così non funziona così però. Sì. No, se prendi danno e finisci a zero, sei zero. Vabbè, sono a zero. Ah, sei già morto? Sì. Vedete che Gandalf sul ponte cerca di esaminare un attimo, ma... Cioè, il tentacolo... Volevo dire Papa Gianni, scusate. Il tentacolo deve tornare in mare, lo... sembra colpirlo sulla testa e lui viene perdendo i sensi. Ma è tornata, è non usiamo queste regole alla cazzo, eh? A Sami si prendono alla fine del turno. Ma da quando? Da sempre. Ma non è la vita proprio. Per questo volevo. Ci sono momenti mentre sto per cadere prendo la pozione, capito? Poi quando cado prendo il danno. Sì, tipo faccio di balzare. Potevi provare a prendere una pozione prima di... Beh, raga, cade Barbagianni in mezzo al ponte e morso. Che fate? Mettere a terra e girate per la colpa agli altri. Oh, è colpa vostra. Perché... Il vero problema non è che Barbagianni cade sul ponte e morso. No, no, mi ha lasciato. Io andavo da caduta. Ah, ok, sicuramente salva, però. Marco, il vero problema non è che adesso Gava è caduto in mezzo al ponte morto. Il problema è che... Quando cade, noi lo guardiamo. Chi è questo? Ma con noi? Di darvi una mano nel combattere. Questo di questi maritari. Nel combattere contro il cataclismo. Questa volta. I loro movimenti non sono così coordinati questa volta. Vai, tocca a te. Allora. Io diciamo che sento il suo tonfo sul ponte. Cioè sul ponte, perché sul ponte. Sì, sul ponte. È caduto a poco distante da te. Ok. E diciamo, mi riprendo. No, ma l'ho messo lì per un motivo. Mi sveglio da questo semicoma che avevo nei pensieri. Vedi che la sorta di... Mi risveglio. E, tipo urlo, non anche questa volta, prendo il martello e corro a combattere. E... Allora, aspetta, il primo tentacolo però è quello che ha tranciato Salva, vero? Sì, questo è quello che ha tranciato Salva, però sei anche qui e almeno non è che puoi tanto superarlo, se non, non provi a distruggerlo prima. Ok, quindi comunque lo devo levare dai coglioni. Ok, quindi do una smartellata a quel... questo smartello che cambia, dove vai a tagliarlo. Oppure potresti... fare quel tipo di danno che tu sai. Potresti fare una volta sola al giorno, però. Però potrebbe essere giusto il momento. Non quel Thunderbolt, quell'altro. Non ce n'è due. C'ho Thunderwave, però. È Thunderwave, non lo fa da me. Sì, ma non c'è nessun giorno. Urletto cazzo di nuovo! Aspetta, ma quello è... Di nuovo i My Night non scrive il dato. Scusa, una domanda tecnica, ma dai. La parte che mi ostacola è la parte staccata o la parte attaccata? Io lo so. È la parte attaccata ancora al Kraken o la parte dopo staccata del tentacolo? Ah, cioè la parte morta o viva in sostanza? Con un tiro di intelligenza. Secondo tu? Ok, 5. Non hai visto troppo bene, eri rimasto già traumatizzato dalla cosa, non hai visto bene da dove proveniva il tentacolo e dove... Vabbè, diciamo così, non mi sono neanche reso conto che il tentacolo è spezzato e do una martellata al tentacolo appena lo vedo. Cioè, puoi anche provare a fare una prova per superarlo, però... Però probabilmente useresti la tua azione per cercare di superare. No, beh, allora, non ho la martella da tentacolo. Dove 13? Colpito. No, cioè, è gigantesca. Potrei dire anche di osservare le immagini. Colpito anche di... Allora, tira solo tira il primo danno. E tiro. 11 danni. 11 danni, vedi che... Con la tua carica da minotauro parti contro il tentacolo che ti ostruisce la via e con lo slancio gli dai una gigantesca martellata proprio dove proprio nell'intorno dove John aveva fatto quel gigantesco squarcio. Il tentacolo si contrae contrasse di dolore e la creatura lo rilascia e sembra sollevarlo e toglierlo dalla nave. Ritirarlo sotto il livello del mare. Ok. Praticamente è ancora il secondo attacco, però non riesce ad arrivare con quel movimento all'altro tentacolo. Ok. Col secondo. No, bene, non credo. Cioè potrei lanciare tipo un'ascia a mano dalla tua pentagono. Ok, però usi anche la tua azione bomba per farlo. Sempre tirare la tua e sì, però hai svantaggio perché è abbastanza fuori il limite di. Avrei fatto, aspetta, però l'arma da lancio o destrezza? No, si può. Sempre forza. Okay. Allora 10. Dai, così. E fa un di 6, immagino. Da lancio sì. La lascia non credo di dare di nuovo l'anno solo domani, quindi faccio 1 più 3, 4 danni. Perché hai fatto 11 danni prima, giusto? Sì. Dei primi danni così? 4. 4. Vedi che lascia si conficca, ma non è stato un colpo particolarmente potente. Gino. Allora. Tu hai la tua tempesta concentrata dove prima c'era il tentacolo, ma è adesso non c'è più. Ma poi posso partire per partire? Non mi interessa molto. Anche io sto pensando. Ancora non mi interessa molto in realtà, cioè. Come siamo al bagno della posta? Fammi un tiro di percezione. Ecco che cazzo serviva quel punto di stregoneria. 13. Purtroppo è troppo buio per riuscire a individuare bene dove ti trovi in questo momento rispetto alla costa. Qual è il modo? Cioè, qual è la parte del Kraken più vicina all'impresto? No, gli altri tentacoli non sono sbattuto, poi sono tornati sotto il mare, l'unico tentacolo visibile è questo. Non vedo niente del Kraken. Al momento no. Come la tela di bottina? Ottima idea! Quanto sono lontano? Senti i galli prendo. Buttati là! Vai a morire! Quanto è lontano questo? Sono circa 45 piedi. Cioè, se la tempesta. Ah no, se la tempesta è qua sono tipo 50 piedi, da te circa 45 piedi. Da me 45. No, la tempesta è sopra di me, cioè. Praticamente sì, un po' più. Beh, no, allora la tempesta ci arriva, no, solo che non so se. Non so quanto è lungo, no. non so quanto è lungo. No, tranquillo, vai. Tu no, pensa. Non penso che dicendo ci vada via. O mi butto in acqua e vedo se riesco ad arrivare da lui sul tacco, ma non una buonissima idea. Ma tanto tra poco ci andremo tutti. Adesso sono avvantaggiato. Sei avvantaggiato? Poverito. Ma perché una volta sott'acqua che faccio? Cioè la stessa velocità, quindi capiti puoi muovere bene. Di via circa da punta a coda sono tipo 90-100 piedi, credo. Guarda per adesso. Domanda. Questo è un brigantino. Esatto. 90 è questo? No, questo è un maggioretto al gioco. Ok, 100. Ok. Domanda. Questa è proprio la domandona. Conjure Animals, due squali, che pensi? Non so se esistono nel valore dei mostri, possiamo pensare. Sì, no, esistono assolutamente. Li puoi congiurare, solo non sai, non vedendo cosa accade sotto, cioè puoi dirgli di. Puoi dargli solo ordini generici. No, però se mi butto io divento uno squalo, posso diventare una squalo, quant'è di pagare? Ci guardo, sto guardando un attimo. Ma non puoi diventare un drago? Non ci ce l'hai quei draghi. Perché sono voluto diventare un drago? Anche nella vita vera. Come è successo da solo. L'arma mi sa, sì, era un'arma. Che tipo speciale diventava. Arriva. Prima faccio la difesa. Ciao! Tre squadre all'orizzonte. Invece di quattro. Quattro pinna. Sembra che sia ossessionato alla fine. Ma non c'è la nostra. Ah no, Rick Sharp, challenge un mezzo. Perfetto, e mi dici un attimo. Cosa allora? Forza Ok, cose importanti. Classe armatura, health, danno. Ok, classe armatura 12, hit point 22. Velocità stacco 40 piedi. Cazzo. Forza più 2, destrezza più 1, costituzione più 1, intelligenza non... no, l'intelligenza è mia. Questo non ti serve, puoi respirare sul tappo. Grazie. E hai praticamente il tuo attacco è più 4 a colpire, fai un D8 più 2. È fatta! Allora, posso colpire con uscire la sott'acqua? No. Ok, allora, praticamente vedete, ciao raga, mi butto, congelo due squali, divento uno squalo anch'io come azione bonus e andiamo a picchiarlo. Ok, la tua tempesta si dissolve. Sì. Per un punto uno. Dico ai due squali di attaccare il cranio. Ok, una cosa dopo. Tu vedi innanzitutto i membri della nave che guardano mentre tu ti getti in mezzo all'acqua tempestose, perché siamo ancora in mezzo all'acqua tempestose. Ma è fermo, no? No, questo lo puoi capire, questo lo puoi capire col tuo dire. La nave non si è fermata, la nave si sta muovendo. La cosa strana, non sapevi rispetto alle isole dov'è, però la cosa strana è che riesci abbastanza a capire che si sta muovendo contro vento. Ok, quindi il cracker non la sta uscendo, forse. Questo sembrerebbe essere l'idea più... Cioè, ci sta portando giù? No. Allora, il vento dove va? Verso l'isola o... Il vento cambia un po' di direzione, ma vedi le vele che vanno un po' al vento così, quindi non stanno, non è la nave che sta usando il vento come propulsore. La nave sembra andare proprio contro la forza del vento. E verso l'isola o...? Questo non lo puoi sapere perché... Fuori è tutto buio. Tu vedi solo nei dintorni della nave perché ci sono delle lanterne che illuminano. Va bene, ok. Che cosa vedo sott'acqua? Che cosa succede? Ok, allora, sotto. Tu ti getti? E proprio nel gettarti a Cigno. Dove prima c'era. Cigno, dimmi che c'è uno squalo. Sono uno squalo. Come. Oscura visione di squali. No, però sott'acqua ci vedrà un po'. Hai blind sight 30 piedi, vuol dire che nei voli intorno ai 30 piedi riesci a capire tutto quello che hai. Senti buttato vicino alla nave, riesci a vedere quello che succede. Vedi questa scena di te che ti lanci con due squali, poi due squali accanto a te, tipo a nuoto sincronizzato. E effettivamente vedi una gigantesca creatura che si è attaccata al fondale della nave con almeno uno dei due tentacoli ancora sopra, più qualche altro tentacolo molto più corto degli altri agganciato alla chiglia. E sì, fammi un tiro di natura. No, 12. 12? L'idea è ti sembra molto un calamaro. Però non hai idea di. Cioè, nel senso, l'idea è quella di un calamaro. Cioè, hai visto calamari nella città di mare, cose del genere. Se non tu anche un ginasi d'acqua. Beh, veniamo da un porto. Esatto. Sembra appunto una versione molto più grande di quei calamari che vedevi venduti nelle banchine, nei negozietti di. Quindi ha gli occhi, due cosi, la testa e i tentacoli con le. Sì, esatto. E ora che sei sott'acqua, riesci abbastanza a vedere che il calamare, questa gigantesca creatura, il possibile Kraken, si sta muovendo e con sé sta portando la nave. E si sta muovendo anche abbastanza rapidamente. C'è un possibile rischio che tu, se non ti preoccupi di stargli dietro, resti abbastanza indietro a questo punto. Perché si muove... Quest'acqua penso che si muova almeno di 60... Porca troia, con tutta la nave? Gigantesco è la creatura, non è proprio... La serra nave è come se tu portassi lo zaino. Quanto pare. Allora subito dico... Cioè no, dico... Comando ai due squali di attaccarsi al Kraken e di azzannarlo possibilmente vicino agli occhi, per dargli tantissimo fastidio. Perché hanno svantaggio sull'attacco, se vuoi farli colpire in un punto specifico. Cioè specifico specifico no, però è enorme intorno agli occhi. Ma sai anche che Se vuoi colpire in un punto specifico, specifico, magari ti il bonus se riesci a capacitarlo. Proviamo tutti quanti a zannare l'occhio. Quanti occhi c'ha? Vedi uno, un gigantesco buco oculare, più o meno grande così. Uno solo. E dall'altro e dall'altro lato, cosa vuol dire? Il bulbo è circa grande così. Tipo, se lo mangi vuol dire che si proprio cieco. Però ci sono anche i tentacoli che gli vanno attorno. Quindi... tibide. Scaglia il tipo grosso così. Dritto per farti capire. Abbiamo detto quindi... Puoi colpirlo lì, allora è svantaggio. Okay. Sono un più 4 per colpire. Fai l'attacco del primo squalo. Allora, l'attacco del primo squalo è 11. 11 non l'hai colpito. L'attacco del secondo squalo è 12, con vantaggio. L'hai colpito. L'attacco del terzo squalo è... Vabbè, l'ho colpito, perché sarebbe... Abbiamo detto più 4 più 3. Più 4. 11. Allora, hai colpito con due attacchi. Quindi l'attacco fa? Un più 8 più 2. Più 2. Gli faccio 10 danni. Con tutte e due gli attacchi. No, sono una cosa. Sono considerati magiche gli attacchi delle tue creature? Sì. Sono considerate magiche. Però il tuo no. No, come no? Sì, quelle sue, quelle loro sì. Le mie no. No? Credo che sia al contrario, i tuoi sì e le tue creature no. Ah, vabbè, allora, vabbè, in ogni caso uno sì o no. No, era conjure. Comunque ci guardo, però... Boh, può essere. Cioè, i tuoi sicuramente sono magici. Vabbè, ma pure lui l'ha creato. Per me l'idea era o tutti o nessuno. No, allora, lui sono magici, che è un'abilità del druido, che ogni attacco da forma animale sono magici. Ah, ok. No, qua non dice niente riguardo considerate magiche, quindi non sono considerate magiche. Vabbè, allora, sempre che io ho preso un attacco e uno dei due ha preso un attacco, quindi sarebbe... Stavo guardando le tue, non sono sicuro neanche che le tue siano considerate magiche. Sì, aspetta. Ah, fino a un certo livello no, dici? Fino a un certo livello no, ma a che livello sei? Il 5? Sì. Io non ho letto nulla di qua, cioè questa cosa non so nulla. Vabbè, non c'è anche... Dice... Porco, no. Comunque l'obiettivo non è fargli danno, è distrarlo, rallentarlo, sì, distrarlo, di perdere la mano. Per ucciderlo. No, ucciderlo non ci penso proprio, però distrarlo non penso che ci siamo uccisi. Tanto ho tentato il tentacolo sopra. Salla, sei pronto? Vogliamo fare questi prese, no, ammazzare il cranio, però siamo gli unici che non posso scadere in acqua. Io credo che non sei ancora a un livello. No, che... tentavo di fare, io ci tengo a distrarlo. No, ma il Salla vogliamo proprio ucciderlo, abbiamo deciso. In realtà sta la gioco qua. Circolo della luna. Sesto livello. Forma del due pagine sono considerati magici. Quindi... Ah, sei al sesto livello, bravo. Totale 10. Quindi hai fatto 5 danni. Per me sei magico. Ma io gli ho mosso il cazzo in buco popolare. Si distrae un po'. Cioè, fa un po'. Per un cazzo. In realtà, Gianfi, io volevo fare una roba per far impazzare gli altri. Si incazza un po', spero. Usa la sua azione leggendaria per cercare di colpire. Grazie. Una soluzione leggendaria come se non bastasse. Ah, però siamo tre. Devi più a provarmi. giustamente, no, andiamo. E che cazzo mi vuoi? Attacca uno dei tuoi due squadri. Facciamo quello a sinistra. Scegli il tuo quadro. Quello da destra ce lo tengo. Ah. A destra. Con un 20. No, no, bravo. L'ho preso. Sì. Quando mi metto 14 di passare 2. Sì, 22 punti di vita. 22 punti di vita, adesso li fa fuori tutti. Fa no! Un milione. 13 danni. Ma se sei mano sott'acqua. Sì, sta impazzendo. Il problema è se lui torna normale sott'acqua. Questo vuole portare a difesa. Ma in Ai non... Vabbè, respira sott'acqua. Ma in Ai guarda lì in mano. Sì, ho preso, finalmente. Non vedevamo l'ora, John. Vai, John. Il mio problema... Cioè, io potrei anche andare sul tizio, ma non so come attaccarlo. Vuoi andare, scusami? No, diceva Jump. Sì, dimmi, scusami. Io potrei anche andarci sul tizio, ma non so come attaccarlo. Cioè, se è sott'acqua... Fidatevi! Dai, c'è l'altro tentacolo! Ma il tentacolo non è divertente. Allora, quanto è lontano Barba Gianni? Con il tuo movimento ci arrivi benissimo. Allora però ti all'altro tentacolo. Eh? Però nella direzione opposta all'altro tentacolo. Mi avvicino a Barba Gianni. È a 0 punti ferita, vero? Yes, è svenuto. Svenuto in mezzo. Prendi la sua pozione che stavo cercando di prendere, ma non si muove. Allora mi avvicino a Barba Gianni. Intanto mi curo di 15 punti ferita con l'azione bonus. Ok. Di fino dove? A Camino. Salla che può vedere. Aspetta, sei stato... non sei stato colpito da schianti, sì. No, ho detto mi curo, non curo. Sì. Ah, ok. Ti ho detto, non ancora. Ero convinto che curassi lui, fate il cazzo. Lo ammazzo, è il colpo finale. Esatto. Ma io mi sento, io mi sento tipo come se fossi benedetto dal mio dio, perché sono super figo, sono super forte, il mio dio mi ama, eccetera. Per cui ho tipo gli occhi allucinati, no? Tipo onnipotente. Tipo bravo. Esatto. Io mi inginocchio di fianco a Gava. Alzo le braccia al cielo e dico: Foltus, pensi che il mio amico meriti di vivere? Dammi un segno. E basta, e perdo il mio turno così. E senti... Ti posso chiedere una cosa mentre stai facendo le tue cose? No. Stavo pensando, scusami. No, di cuore. Ti posso stare dove si step? Poi? Non lo sai ancora. Dove mi si step? In un turno? No. Poi ci provo un'impressione. Perché ci sto pensando. Posso capire? Perché posso capire se è una spell o un'azione bonus. Ma due azioni bonus, seppur sono due spell, sono due azioni bonus. Cioè, sono castati come azioni bonus. Quindi... Non lo so, ma è scritto esplicitamente nel manuale. No. È scritto esplicitamente nel manuale, tra l'altro. Sì, lo so. Vedete però... che. Cazzo, sto manuale. Ma che ha scritto sto manuale? Cazzo. Lascia il timone a questo punto perché capisce che è tanto. E inizia a correre verso l'altro tentacolo che è rimasto sulla nave. Però non fa in tempo a raggiungerlo, quindi usa il suo turno per spararmi un dado di balestra. Che se me ne colpisco. Ok. Ma chi? Liv, il capitano. Il capitano. Tutto timide. Però nel suo sempre nel suo turno. Grida all'equipaggio: preparate le scialuppe! Questo in caso di evenienza. E di nuovo sembra che la creatura reagisca scagliando i suoi tentacoli sulla nave. No, uno di quei tentacoli cerca di afferrare uno degli spari che gli stanno attorno. Sta funzionando. E colpisce Gino. Mira Gino. Con un... Se tutto andrà a puttane perché io ho perso il mio round a pregare. Spero. No, è stato con un... 16. 12 già, è impossibile. Vedi che uno dei tuoi... uno dei suoi tentacoli si avvolge intorno a te, a tua forma di scuola, inizia a stritolarti per 15 danni. Okay. Ma se tu muori da scuola, muori proprio oppure torni normale? No, non normale. E poi sul ponte ci sono che sei male, altri 5 tentacoli che ti sbattono. Forse è uno di quei combattimenti in cui bisogna ritirarsi. No, in cui magari dovrei far qualcosa. Invece che pregare. Forse sì. Basta già. Oh, com'è se adesso il segno di Foltus è tipo il tentacolo che spiace? Cosa? Non è un combattimento, è un massacro. Quando Pyre, non Pyre, perché ho detto Pyre, volevo dire Gallifrey, Barbagianni, John, fatemi un tiro salvezza su destrezza. Che c'entra io? Non lo so, tu hai venuto, come fa a farlo? Ah, perché me lo chiedi? perché sei finito in mezzo alla zona, sto tirando la palla. Io tanto lo faccio, ricordo, non serve a niente, lo faccio poi 19. Cazzo, bravo. Quindi mi faccio la metà del danno. Fai la metà, chiamalo poco voglio dire. Cazzo, prima ho fatto venire il dragon, quindi allora pensavo che si salvasse automaticamente. Adesso. Chiamiamo un kraken comunque. John? 18. 18? Ok. Sì. Allora, John e Gallifrey prendete 6 punti danno. Vabbè, dai, onesto però. Presso un Kraken. Sì, sì, presso un Kraken non è onesto, infatti ti ho detto onesto. Scusa, 6 hai detto? 6, sì. Barbagian, tu purtroppo il tuo corpo, mentre hai vicino John che chiede, al cielo consiglio, il cielo... Questo io non l'ho fatto. Testa. Okay. Però... dall'altra parte della nave, dall'altra parte della nave, un tentacolo colpisce anche te. Tutto bene. Posso andare in negativo? No, no, prendi automaticamente un fallimento. Fallimento su i tiri tiri morte. Sì. A meno che non arriva qualcuno ad aiutarti. Qualcuno che c'è lì che potrebbe farlo, per favore. Sì, però adesso è molto GDR. Se il segno di Foltus è lui che viene spiaccicato, vuol dire che non lo devo salvare. Io capisco, io cioè, ammiro soprattutto la tua fede, però potresti anche avere fede in un futuro migliore, una fede migliore. E di nuovo molti degli uomini potresti avere fede in fede. Questo è il fare. L'ho fatto Foltus da un segno. Gallifrey, tocca a lei. Io da mor proprio raggiungo lava. Mi prendo una... che praticamente è stato schiacciato da quel cosa che tira strisciando. Gli prendo una bella pozione dalla tasca e la picchi in gola. Praticamente ce l'aveva già in mano, quasi da perdere. Esatto, per quello. No! Dare no! La tua... No! Fermo! Il mio dio si è espresso, deve morire. Tanto non serve proprio i rendavoli, cioè, prendi la pozione fluk lo fai tipo bere. Devo tirare io o tirare lui per i dati? Sono 2 di 4 più 2, come volete, scegliete voi. Dai, prego, andiamo. Goditi. Cosa ci stiamo guardando? Oh, scusate. Perché sono i turni in cui la nave sta per affondare, cioè abbiamo altri 4 turni e poi la nave affonda, quindi io comincerei a levare l'armatura. Posso montare anche con l'armatura? Ah, scusa. Scusami, mi ricordo una cosa, Gino, tu vieni trascinato, il Kraken si muove a una velocità molto elevata, tu sei stato agganciato dal tentacolo e vieni trascinato con lui, però i tuoi squali stanno iniziando a perdere. Mi spero che tu diresti quando ho fatto l'attacco di tesi, sì, rimanere... No. Allora era una cosa diversa, volevi fare grapple. Azzannare e poi non rilasciare. Cioè, allora è diverso, volevi fare grapple. Però se mi attacco all'occhio, un po' di danno che lo faccio. Non funziona così. Vabbè dai, riprendo... No, sono verso l'indietro, puoi dire di dare la loro azione per fare dash e tenersi al passo con... Ok. Praticamente in generale sono attaccare un turno sì e un turno no, se vogliono cercare di tenersi al passo con il Kraken. Ok, perché fanno 60 piedi, non fai che stanno 30 piedi. Bravo Gianni, tu rinvieni tra le braccia di Gallifrey che ti guarda. Il mio salvatore è arrivato! Intanto c'è John che dice no, deve morire! E tipo di nascosto con un braccio l'ho coltello. Il coltello esplode direttamente. Dimmi. Vabbè, io sono ancora un po' lì. No, no, sei cosciente, sei con il rinvigorimento della pozione magica, ti senti pronto a combattere un nuovo. Ah, proprio sì, ragazzi, pozione magica. Tipo adrenalina nella gamba. Va bene, allora chiedo a Gian. Ne do più niente, molto esagerato. No, no, gli dico, ma qua quindi ci si butta in mare, si rimane qui sopra. Salvati. Survival. E io visto c'è un after party, visto che c'è ancora la mia azione, suppongo che sono andato io, l'ho curato, mi tocca ancora a me. Io uso due bei punti di stregoneria e sparo un bel mio cantrip, perché quando parlo non si può fare altro in questa cazzo di vita. E facciamo fireball. Ma perché puoi fare un incantesimo normale? Sì, ti ho dato la sto male! Tanto ormai è finita la stregoneria. Cosa? Mi curo. Vita cosa? No, niente, ti posso chiedere una cosa, la mia fiamma di fuoco, se colpisco in basso, riesco... Si spegne? Se va in acqua? Se pure... Cosa vuol dire? La palla di fuoco, fireball, bolla. Va in acqua, si spegne o perché siccome comunque è fiamma magica riesce a sopravvivere? C'è un'esplosione di fuoco, però sarà sopra l'acqua, non può andare sott'acqua l'esplosione. Era questo che chiedevo, quindi grazie ma no grazie. Vabbè. Posso? Sì. Allora, no, posso... No, cioè, scusa un secondo, se voleva fare incantesimo, però hai 3 secondi. Alter self. Va bene. Posso diventare, tra le cose, posso diventare proprio un frame di acqua, e quello di acqua, vediamo un attimo subito cosa posso fare, perché mi lancerò il mare, probabilmente. Ma che lo può fare? Ma lui è andato in mare perché diventa squalo? Io perché... No, però io rischio sott'acqua. Pure io, cioè, questo, cioè c'è proprio la cosa di Alter Self che mi prendo dal tuo bellissimo HTML, che non c'è cosa migliore. Alter Self. Vai. Allora, io posso fare Blade Ward e buttarmi in acqua, o posso solo buttarmi in acqua? Allora, io non so se vede... C'è la tempesta che imperversa fuori, cioè... Andrò a rivo, oppure come nei film mi risveglierò sulla sabbia così. Sì, sì. Allora che ti ammazzo. Cioè tu praticamente sai di essere un po' capriccio. Lo vuoi usare il tuo momento per buttarti in acqua se vuoi. Sì, no, ma va bene, sì. E si va! Hai fatto la forma acquatica con Alter Self, praticamente. Sì. Il mio body diventa molto lanciato e leggiato. Vabbè, io prendo una scialuppa, come fate voi? Di nuovo, ok, va bene. Respiri sott'acqua e praticamente... Sono io sott'acqua. Abbandoni Barba Gianni, inizi a correre verso il bordo, intanto casti la tua energia piano su di te, vedi che... In realtà io ho soltanto il pensiero di quello che la pelle, scena, la pelle tra le tue dita sembra allungarsi sulla tua mano, a formare delle membrane, i tuoi occhi diventano... Più gialli, più... Cioè, tutto sto casino, uccidiamo il Kraken, non uccidiamo il Kraken e vai via. No, vado face to face, amico. E più a palla. E senti che tipo qua, la testa dei colpi spuntano... Sì, come Harry Potter sul... Esattamente. Beh, salve, rimane solo niente, dai. Dicevi, scusami... Quindi io faccio Blade Ward e mi butto in acqua. Dal lato dove... Io vado su una scialuppa e vado via dall'altra parte. Come? Ah, sì, vado su una scialuppa e vado via da un'altra parte. Ma io pure! Poi la raggiungerò al nuoto. Vivi, intendo, non sulla nave. Sì, no, Fede, sì, no. Io lo faccio. Ti prego, Fede, no, sì. Non c'è la stessa velocità, ci stiamo muovendo a 40 piedi. Non importa. Tu non ti muovi alla stessa velocità, no, di 60 piedi. Piedi. Cosa? Dai. E tu puoi dire... Loro si muovono a 40. Tu ti muovi a 40? Bastardo, mi hai confuso. Beh, è illuso. Barbagianni è andato, fai. Sono della merda allora. Beh, ci sta, non lo sapevi, ti sei buttato. Allora, io intanto mi do una magica occhiata intorno per capire... E cioè, nel senso, non potrò fare nient'altro se non muovermi praticamente. Un mega gioco sarà un più danni tra due o tre persone. No, nel senso se sono integri o se sono distrutte. Ah no, sì, alcune sono rimaste abbastanza integre, visto okay. Che la maggior parte del equipaggio è abbastanza andato, okay. Sono sufficienti per... Ok, quindi questo. Ci sono dei marinai ancora... Sì, che stanno appunto, in questo momento stanno appunto lavorando per calare il mare. Ok, sì, perfetto. Allora cioè, dico ai marinai, continuate a preparare il sceroppo di salvataggio, cagano minimamente, stanno pensando a casare. Va bene, allora nel frattempo io continuo a dare martellate tentacoli giusto per cercare di fare. Come mentre riesci benissimo a raggiungere il compagno. Ok, e un martello. E gli uso. Quanti tentacoli sono sulla nave adesso? Di nuovo, c'è sempre quello molto grande che sta tenendo tipo la nave su davanti. Perché sono andato a tirato perché gli altri colpiscono e tornano su. Ah, allora picchio quello e uso l'abilità del mio martello e gli faccio 3-4 puntini. Cioè, visto tutte le scene dove c'è il tipo della marina fanno esplodere la nave. In qualunque film, che tu abbia visto. Ma nel senso spoiler, nel senso tipo quella. L'olio, la spada, tutto quanto. Fireball. Salvatevi. Io tanto già sono in acqua, faccio l'ultima, cioè anche se sto indietro me ne frega, se non mi raggiungete. Allora faccio 23 di amici, più, qualcuno basta che rimane solo. Un attimo che ho un... Tu sei già puntato? Ma io ho 16 anni con Kendrick perché posso parlare alle persone, se vuoi. Perfetto. C'ho un range tipo 18 piedi circa. Di nuovo con una carica da meno cavolo, incanali tutta la tua energia nel martello che si squarcia, e insieme ai tuoni della tempesta senti anche... il tuo colpo sulla cassa. Oh, io devo fare un'altra domanda al master prima che si arrabbia. Gino, domanda. Tu? No, Gino, tu? Io sono preso da... Sei molto preso in questo momento. Sono molto preso. I due squadri stanno cercando, cioè fanno dash per tornare... Okay. Riescono a tenere la velocità del Kraken, si è praticamente trascinato insieme a lui perché sì, è lì. Sono lì. Riesco a fare danno dove sono, riesco a... Sì, beh, hai svantaggio, ma puoi provare a muoverlo nella tua forma di squadra. A morderlo nella tua forma di squadra. Scusa, puoi provare a rallentarlo? Cosa del tutto insensato a rallentarlo, cosa improbabile proprio. Puoi credere in te stesso e provare. Dai, sì, credo in me stesso. Vuole le carte. C'è di diventare altro che Super Saiyan qua. Salla. Prova a divincolarmi. Posso, sì, okay. Posso fare due dash se c'è voglio, oppure devo saltare la mia azione per fare il movimento. Oppure approvazione di salta la tua azione, non sei Gav. Facciamo più forza di destezza di spalletto 14. Non posso fare tipo 60 piedi un Kendrick, non ce la faccio. Hai un più 2 in forza. 17. Che carino. Però ci posso provare a farlo. Sì, ma facciamo tutto per tutto, non ci penso io. Incredibilmente nella tua forma acquatica riesci a divincolarti dalla presa del cranio. Sto male. Ti tiri per tenere la presa. Sto male. Vabbè, andando verso non posso fare più nulla. Ah, scusami, ho dimenticato. Con la sua azione leggendaria, sentendo il colpo di martello di Pyre che lo colpisce sulla nave, in tutta risposta uno dei suoi tentacoli cerca di afferrare questo dolore. Questo dolore che è. Chi c'è sempre? No! No! Sì! Perché c'è 17, vero? Sì. Aspetta, ma se ne guaglia mi colpisce, giusto? Sì. È tipo... È tipo due anni sono tipo tre anni e mi lesiono per va bene. Il tentacolo ti agguanta. Immagino che ti solleva e senti 15... No, di quello. Cioè, magari quello che si è posto non ha, torno umano, un secondo. Torni umano sott'acqua. Ok. Vabbè, io sono... Ah, beh, vero. Suppongo che tipo Perry sia totalmente inutile. Come scusami? Tipo Perry, immagino che sia totalmente inutile contro un tentacolo. Non dire Cilla, no, no, Perry. Oh. Ah no, però beh, non riesci danni Perry, effettivamente non fa niente. Più Cilla, Worm? No, no, beh, niente, riesci danni Perry. Oh. Puoi fare, riduci i danni, perché stava per fare 11 danni. Ok, uso Perry. Riesci a usare il tuo martello come a mo' di scudo, riducendo diciamo la pressione della stritolata, però la stritolata c'è ancora. Ti riduco due danni, cioè poco due danni. Prendi 13 danni ancora. Sono pronto. Ho trovato l'animale che mi piace. Gino, tocca proprio a te. Ormai l'equipaggio è troppo disperso, occupato. Sai come si dice combatti un uomo gigantesco polipo con un altro gigantesco polipo. Ovvio. Lo dicono come parte del tutti i lo dicono. Diventa un gigantesco polipo. Tu lo conosci. Poi vedi che praticamente definisci gigantesco polipo. Giant octopus. Dove l'hai letto? Challenge 1 su internet è tra i nostri della tra della i testi quinta. Della quinta, sì. Bravo Citta, cazzo. Ci sta. In più non può dirti non l'hai mai visto perché ce l'hai davanti. Non sai come fare. Ok, challenge 1, va bene. Cerco di replicare quello che sto vedendo in maniera più piccola, però. Ci sta, no? Diventa una battaglia di tentacoli. Sembra un intento con porno. Ma ci puoi comunicare? Ma ci puoi comunicare? Quando tu prendi il noi! Allora, prima di un polipo gigantesco. I due squali scompaiono. Quante volte puoi usare però la forma animale? Due volte. Due. Tre. Mi sembrava avere tre, però in ogni caso questa è la prima. No, beh, questo puoi usare questo, però non no, quella dopo non lo so, per adesso questa mi interessa. Sì, va bene. I due squali compaiono due giant octopus, che questo turno non possono attaccare. Cos'erano? C'ho tre casi qui scritto. Io c'ho scritto due, a meno che non sia... Sì, dovrebbe essere due. Io Wild Shape c'ho scritto 3. Hai citato, No, ma io ci sta, ho citato 3, erano 5. Oh, vabbè. Dai, bravo. Cioè, vabbè, per adesso, due ce li hai di sicuro, quindi questa è a posto. No, due... sono due, ma si ricaricano con gli short rest. Sono altri due Giant Octopus dove sto io, ma non possono attaccare questo turno. E io invece così, io attacco. Quindi usi la tua azione per evocare i Giant Octopus. Ah, no, è vero, hai ragione. Perché questo era il turno. No, ok, non posso fare niente. Siamo tre Giant Octopus adesso. Vabbè, ho risultato un po' i tuoi punti di vita, dai. Non vedi niente. Poi qua c'è la scheda, quindi. Non vedo l'ora che tocchi a me. E io ti parlo a mi dire che scendi sulla scialuppa. John, tocca a lei. Lo so. Ora so che le scialuppe siano ancora come prima. Come? Le scialuppe non sono pronte. No, probabilmente in un turno tu mi servirai, amico mio. Sarei colui che vincerà la battaglia. Cioè? Ho in mente una buona idea. Te la comunicherò, ma adesso non posso perché sono in no. Intanto do una mazzata a un tentacolo. Ci arrivi. Tipo il mio ci arriva? Non ci arrivi. Dovresti dare due movimenti per arrivare. Scusa, andiamo dove? Perché correndo verso Gava, verso Barbagianni, si è andato nella direzione opposta a tentare. Quindi adesso ti daremo due movimenti per andare dove tentare. Cioè, non solo doveva morire ed è ancora vivo, ma mi hai fatto pure perdere. Scusa, ma non hai quell'altro tentato, no? Quale altro tentato? Che ne so, dove cazzo stiamo? Voi siete più o meno rimasti tutti in questa zona. Quindi Gava sta tipo qua. Sì, questo tentacolo non c'è più. Ah, non c'è più questo. No! Che bello! Ci ha fatto 57 danni in un colpo, è ovvio che non c'è più il tentacolo. Bravo, Nico. Adesso confidando che i tentacoli non rigenerino, uso un Misty Step per arrivare dall'altro tentacolo. Sto male, sei migliore. E lo attacco. Misty Stepando ci riesce. Perché tu stai? 18. Hai colpito. Che palle, Lucky. Faccio solo fumble io. Ho fumble, ho 20 da giocare. Che palle, 17. Capito. Ah, beh, fico. Vabbè, 17, un cazzo di nero gigante. Vabbè, ah, c'è Naito. Che viene tenuto in aria dal tentacolo. Che c'è di modo? Anche nel dubbio. Ci sono più capi, se non stai... No, stai sotto acqua, giusto, scusami, avete pazienza. Che cazzo vi stai facendo? Ma perché vuoi vincere? Come te lo non sentire? Perché ero troppo concentrato sulla tecnica come ammazzare il Kraken. Perché lo ammazzare? Non mi frega un caso. Io muoio. Io muoio, ma lo voglio ammazzare. Maito anche, nel dubbio. Certo. 13. Ma gli smash c'è tanti, c'è ancora dopo? Sì. 19. E 23. Più 10. 33 danni. Ah no, c'è anche un D6, aspetta. Come vedi? Scusa, sono 39 danni. Cioè che quello ha fatto 6? Ha fatto 6? 39 danni. Capito, grazie. No, giusto, non era per te. Era 39 danni, cioè era per... Sì, ma penso che i tentacoli c'è nel senso, sono tipo parte... come quando distruggi tipo i leggendari mostri in un gioco. Cioè, sì, tutti i tentacoli devi ammazzare la palla. Non paio, tipo... Ah, no, io immagino che non possa ricrescerli, esatto. Quindi dopo un po' finiranno sti cazzi. No, no, no, quello è meglio, forse tipo fare meno danno. Che? Okay. No, sei tentacoli più due, quelli che usano. Comunque basta, non lo curo più, non lo curo più, Gava. Tu dirai, non l'hai curato neanche sta... però... John, tu scateni tutta la tua ira contro questo tentacolo, la bestia si praticamente si dimena dal dolore e il tentacolo sembra mollare la terra sulla nave e tornare in mare. Ah, easy. La nave, io mi metto a ridere. Foltus. Porco il 2, hai sbagliato però, combo. Merda. Ma è vedi che a questo punto anche il tentacolo che ti tiene. Ma secondo me la modo la prende. Devi farmi un più sorvegliare sulla destrezza per vedere di non cadere in mano. No, perché me lo sto per dire. Vedete la là, stavo introducendo. Sì, ma che boss fai te? L'hai fatto? Posso finale. 4. Grande. Purtroppo il tentacolo si ritira molto velocemente, ti lascia, ma sei già oltre il bordo della nave e non riesci ad agganciarti, finisci in mare. E muore, probabilmente. E ha una velocità... Avrà più 26 di atletica, tipo. Ma più che altro perché c'è quell'armatura in mezzo. Cioè sì, quello che la velocità effetto della nave rallenta all'improvviso, ma il mostro la rilascia. No, no. Ti prego, non la fa andare via. Prego, perché? Lascia, attacca la nave. Perché lascia la nave? Non attaccare. Perché gli avete fatto... Ma non si è cagato in mano, te lo dico io. Con due attacchi gli ho tolto 5, 3 quarti di vita. Ho 5-20 danni. Ma vedi che sei un coglione, non dovevi attaccare. Scusa, se l'ho massacrato di legnate. Ma mi contenenti, adesso sta lasciando la nave. Scusa, se l'ho massacrato di legnate, non dovevi... Hai sbagliato. Spaventato dal fatto che la sua frega fa bene, anche perché questa gigantesca creatura si incazza e tracola un altro tentato, si ritira e si scappa dalla nave lasciandovi in preda alle correnti. Voi siete tu e tu solo John, è rimasto sulla nave. Tu anche tu sei ritirato. John trionfante con la sua spada in mano. Stai sul ponte, i marinai che ancora sono sulla barca. Lasciare la bella sentata di sciarpa, ero pronto e rimasto lì così. Esultano. La nave, la nave è criticamente danneggiata. Ora che il danno è stato fatto, noi siamo arrivati. È criticamente danneggiata. La. Non mi ricordo, cioè il cavo è proprio così, cioè sì, praticamente una volta staccata dalla nave, attacco l'opportunità, dai. Vedi che la sua velocità ci sta, va bene, vuoi fare una danza? No, se si ritira no. HP, quello che... Ma scusa, se si ritira non puoi fare una danza. Avete fatto tipo 220 danni e siamo neanche alla metà. Chi è? Circa intorno alla metà di... Ah, niente. Vabbè, altri due attacchi andava giù. Potrebbe essere tipo lui cerca di mangiare qualcosa, la preda combatte indietro, il ferito si ritira quando vede che la preda. Va bene, perché due attacchi. Ma l'idea non era quella, sinceramente, no? Non pensavo neanche avesse fatto più di 200 danni in due turni, ma questo è un altro discorso. Considera, vorrei far notare che un turno non ho attaccato, per pietà. In realtà tu non ho attaccato nemmeno io. Sì, no, però forse ho dimenticato di... No, a me non lo fai cambiare, quando tocca a me sono il primo io. Quando tocca al calamaro lo cambio. Va bene, quindi... Niente, dottor... Quindi devo ancora imparare come fare le misure per i combattimenti. No, ma solo lui è forte. Allora scusa, fai tutte le cose che sono contro di lui, ti vai a leggere tutte le sue abilità e fai contro, che ne so. Tira di forza, immagino che si divertirebbe un casino dopo giocare. Sì, non vuoi farlo diventare. Dici, moriamo. Quello... Calamaro lascia la presa. Non ho capito. Cos'è? Adesso non ho capito qual è il problema di Jump. Cioè, è stato carino lo scontro e non poteva attaccarlo. No, sto parlando di Mo. Sto parlando che lui dice che secondo lui non ha fatto abbastanza forti l'avversario. No, ha one shottato Gava. Secondo quello che fa tantissimo male. Ho capito, ha one shottato Gava. Però è vero, hai mosso Gava, secondo me. Non c'è no, Gava, uno degli avversari. Cioè, meglio di così, non so, uno scontro così perfetto. Per concludere. Il mosso si stacca dalla nave e a una velocità ben superiore a quella con cui gli stava trascinando dietro, si allunga nelle profondità degli abissi. Però prendo un sacco di profondità. Se vuoi, no, lui. Ma scusa, se, cioè, se si ritira, disingaggia. Tuttavia, cosa? Se disingaggio. Si ritira, disingaggia, non è che sta lì. Da sott'acqua riesce a vedere che la trave di principale della nave, che adesso. Vabbè, la chiglia. Non è, la chiglia è la parte sotto, ha un nome specifico che adesso non ricordo. È stata gravemente danneggiata e quando questo succede, la nave è destinata a inabissarsi. Quindi avete poco tempo prima che la nave si inabissi. Alle scialuppe! Vabbè. Noi siamo in forma acquatica. Ma tu puoi attornotare sott'acqua? Io non ho capito questa storia. No! Che vuol dire? Ma... No, non dare... Cioè, non vado sott'acqua, cioè vado sott'acqua per sai respirare sott'acqua? No. Come un essere umano. Cioè no, non sono neanche un essere umano, come un Vedete che rapidamente gli uomini finiscono di scaricare le scialuppe dalla nave. Quindi siamo per iniziativa, tanto per... Sì, siamo per iniziativa. E grazie all'aiuto anche dei vostri compagni più acquatici, riuscite a fare il punto della situazione e a aggrapparvi alle scialuppe che vengono scalate. Purtroppo della ciurma rimangono ben poche persone, il capitano che ha cercato di aiutare come gli poteva in quei due turni. Scusa, io e i tre tizi possono prendere le scialuppe tipo con la corda e cercare di spingere più facilmente verso la riva, tipo capito? Oppure potete provare i miei forza, molto. Ok. Riuscite a issare chi ha bisogno sulle scialuppe. A questo punto notate. Cercando di fare più o meno l'idea di dove mi trovo in questo momento, la nave si sta inabissando e notate che questa creatura sembra aver trascinato molto più vicino all'isola di quanto pensaste. Esatto. Siete in fatemi un tiro di percezione o natura. No, sto scelto. Il mio guarda 12. Aspetta. Praticamente, guardando un po' dove eravate prima e lo siete ora. Sta ancora piovendo? Certo, c'è una tempesta. No? Scusa. Non sa quel cane che va via e la tempesta si. E non c'è il male, c'è il polmone. Aspetta, che era naturale? No, andiamo. Non sono molto naturale. Praticamente siete all'imboccatura che c'è di questo piccolo golfo. Ah. E in questo momento una corrente vi sta spingendo verso lì. Ma io il cugino ci va, direi di concludere qui anche la sessione per questa sera. Sulle scialuppe? Sulle scialuppe. La corrente è più forte, non riuscite a contrastare la corrente del mare perché ancora c'è la tempesta. Posso farti l'immagine? Mai. La capitana guarda la sua nave affondare e ripensa al passato. E noi gli diciamo dovevi stare sulla nave. La capitana affonda con la sua nave. Con quindi pare porta la sfiga tremenda. Ma te ne pensa? Esatto. Cioè, fatto la che fai? Cioè, non chiedo la sciarpa, c'è il bordo. Due volte che passo lì, due volte che cane proprio. Urca. in tutto nelle sue ci saranno. Scusa, alle 8 persone, giusto? Della ciurma, tipo, parte voi, capitano. Ti chiedo, visto che. Ma... Uno è il vecchio che ti offriva il posto. Ti ha salvato, grazie a Dio. Ma vedi la nave che... posso provare a. Cioè, no, io non lo vedo perché sono già. Sì, diciamo, no, è stato sciolto. Sì, sì, mi ero buttato in mare. Sì, e ti hanno recuperato perché stavano tutti scappando. Quindi io mi sono svegliato o sono ancora incosciente? Ma sei incappato, hai preso una cazzo di pozione di cura. Sì, sì, ma sto buttandomi in mare un po'. Acqua che va nei buoni. No, sei stato abbastanza in forma. Ok, non faccio il risveglio cinematografico. Ci sarebbe stato se la nave fosse stata distrutta. Ok. Comunque, era questa l'alternativa. Ti volevo chiedere prima di... In realtà io speravo che crepasse, se una Foltus... Comunque, piccola visione, se vedo che ne sto notando qualche... in più. Che ne sto salvando, vedo io. Fare un tiro di percezione. Ok. Ma con Perception, eh? Wisdom. Perception. Saggezza. Non so che ho ragione. Sì, non bravo. Io le regole le so del gioco. Qualcosa allora? Con 13 purtroppo no. Anche con la tua scura visione vedi alcuni cadaveri vicino alla barca. Ti tornano ancora in mente le urla degli uomini che cadono dal mare. quanti membri della famiglia Will sono? Ma no, non trovo nessun superstite in mezzo. Lutto sui cadaveri. Niente, lentamente. Come si sta cercando di. Torno sulla sciaruppa, come si sta, cosa faccio subito? Vi trovate già praticamente dentro al golfo. Quindi non potete più allontanarvi, diciamo, dall'isola, perché le correnti vi spingono tutte verso il rino. L'unica cosa che dovete fare adesso è resistere alla tempesta che ancora fa, attaccare le navi e cercare di non farle ribaltare. Perché presto il vostro arrivo all'isola di Trisk è ormai. Va bene, concludiamo così. Si conclude così la quinta sessione di Cross of Destiny con un. Non era un Kraken, se lo stessi chiedendo. Con un non Kraken che è stato battuto più facilmente di quanto pensavo. Questo non era un Kraken. Questo non era un Kraken. La puntata voleva decisamente essere. Decisamente non era Bob. Voleva essere la puntata. Il naufragio. L'idea di chiamare il naufragio. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao.